Allora, iniziamo questo pomeriggio di discussione. Volevo dire che questo nostro incontro di oggi pomeriggio ha come dire, è finalizzato in modo duplice. Da un lato, discutiamo il tema del reddito minimo garantito come diritto sociale fondamentale e in occasione di questa discussione vorremmo discutere fra di noi anche questo per me importante fascicolo uscito di recente di questione giustizia numero 4 del 2010, di cui ci sono ancora due copie qui disponibili. Fra l'altro è anche disponibile un appena uscito volume sulla controriforma della giustizia del lavoro a cura di Fabrizio Amato, che non c'è, e del nostro Sergio Mattone, che è disponibile con lo sconto per chi volesse acquistarlo. E dall'altra parte, diciamo, questo incontro è uno dei tre incontri preliminari a un'iniziativa, il primo meeting nazionale del Basic Income Network Italia, che si terrà con il patrocinio della provincia di Roma il 9 e 10 giugno. Abbiamo appunto programmato una serie di incontri e prima di iniziare la nostra discussione, non vedo però Sandro. Ah, sì, do la parola proprio 3 minuti a Sandro Gobbetti, che ci dirà, diciamo, molto, molto sinteticamente quali sono, diciamo, le finalità in estrema sintesi di questo incontro del 9 e 10 giugno. Sì, ma la mia è un'accumulazione molto veloce, perché questa è la prima iniziativa, quindi inauguriamo con questa giornata, questo percorso che arriverà fino al 9-10 giugno, che abbiamo costruito insieme alla provincia di Roma, all'assessore al lavoro e all'assessore Smeriglio, che ringraziamo, e che porterà al primo meeting nazionale promosso appunto dal Benitalia e dalla provincia di Roma sul tema del reddito, e si chiama meeting proprio perché il tentativo è quello di mettere insieme, in particolare il 9 e 10 giugno, tutti quelli che in qualche modo in questo paese, realtà associative, esperti del settore, economisti, politici e quant'altro, diciamo, in questi anni hanno in qualche modo agitato la questione del reddito e l'hanno posta come uno dei temi centrali della politica, dell'iniziativa sociale, economica e quant'altro. Quindi questa è sostanzialmente la prima iniziativa, quindi oggi si inaugura questo percorso, la seconda ci sarà il 15 di aprile sul tema del collegato al lavoro, quindi la questione precarietà e la questione del reddito, la terza sarà il 12 maggio, sul tema della crisi economica e il tema del reddito come alternativa e come opportunità, quindi si entrerà un po' nel merito di quello che sarà poi il 9 giugno, in cui ci sarà un dibattito al quale abbiamo invitato numerosi, diciamo, autori internazionali, Klaus Hoffe, Guy Standing, Ailsa McKay, che è un economista scozzese, Ferraioli, insomma, molti altri. Successivamente, il 9 giugno, sempre finita questa prima sessione, ci sarà appunto l'approfondimento con dei tavoli specifici ai quali inviteremo tutte le associazioni che affrontano il tema del reddito, sia dal punto di vista di lotta alla precarietà, di lotta alla povertà, della questione del diritto, del piano europeo, del piano internazionale, quindi di come si finanzia un reddito. Quindi, diciamo, faremo dei tavoli di approfondimento per affrontare a tutto tondo questo argomento, che saranno poi. Questi tavoli produrranno poi delle relazioni che verranno presentate il giorno successivo, il 10 di giugno, con molta probabilità all'interno della provincia di Roma, a degli invitati della politica nazionale, con i quali siamo ancora in via di definizione per i nomi, e ai quali presenteremo, diciamo così, le diverse riflessioni che il mondo sociale, associativo, accademico, culturale, economico, pone diciamo, il mondo che pone le questioni del reddito attraverso queste giornate porrà appunto ai politici una serie di domande con le quali l'intenzione è quello poi di interloquire per un ipotetico appunto programma diciamo così pragmatico, cioè fare in modo che l'Italia quantomeno si avvicini a quelle che sono almeno i modelli europei di reddito minimo garantito. Quindi quella di oggi è semplicemente la prima iniziativa, questa era una comunicazione per darci un po' così il buon avvio e lascio la parola al dibattito, insomma. Ok, allora adesso prima di dare la parola ai nostri relatori, solo tre, diciamo, pochi cenni di riferimento. Dicendolo il più possibile obiettivamente, pur avendo scritto in questo volume e quindi separandomi secondo un'operazione notoriamente epistemologicamente impossibile dal contenuto che vorrei brevemente descrivere, io vorrei prendere questo forum su questione giustizia come un esempio simbolico di come qualcosa sta davvero cambiando. Davvero cambiando o sembra poter cambiare nello scenario politico ma anche culturale e ideale italiano su un tema che noi torto a ragione riteniamo cruciale per mantenere e rilanciare le promesse del welfare e per garantire, diciamo, quei diritti di cittadinanza che oggi sono fortemente a repentaglio in virtù dei noti e prepotenti processi di globalizzazione economica. Dico che è simbolicamente importante questo testo perché dal testo mi sembra di poter dire che emerga quello che con John Rawls possiamo definire un consenso per intersezione. Sergio Mattone, che è stato il curatore di questo forum, aveva intenzione di costruire un dibattito tra posizioni critiche e posizioni invece favorevoli sul reddito minimo garantito. Quel che è emerso è invece una appunto convergenza che non annulla i punti di vista di partenza né annulla il forte dibattito che vi è stato negli anni 80 e 90 tra le varie anime della sinistra su questa misura, ma pur vede una linea di convergenza su alcune caratteristiche di una tutela della dignità essenziale della persona. Infatti di questi quattro interventi, a parte quelli più scontati, diciamo, degli aderenti del BIN Italia, come quello di Gallino, le cui posizioni sul reddito sono note ma che comunque sono cambiate nel tempo perché la svolta di Gallino, insomma, è di un anno fa, ma anche la posizione del compianto professor Roccella, giuslavorista insigne pro labor, non sono certamente, diciamo, contrarie a questa misura, ma sono in forte, diciamo, non dico sintonia, però, diciamo, in un rapporto di dialogo e di confronto con l'introduzione di questa misura. Allora, perché questa cosa, diciamo, questo scenario è in un certo senso mutato, e di questa mutazione, secondo me, un altro importante riscontro ci viene dalla fondamentale risoluzione del Parlamento europeo dell'ottobre del 2010, che con una maggioranza di 500 voti contro 19 ha invitato le istituzioni europee a rendere obbligatori gli schemi di reddito minimo garantito, che, come voi sapete, gli altri 24 paesi hanno, eccetto tre paesi che sono la Grecia, l'Ungheria, che però pare si sia dotata di qualcosa del genere, e l'Italia, ma in più ha detto che si trattava di un diritto sociale fondamentale, che quindi doveva, in qualche modo, deve essere garantita una certa incondizionatezza della misura e che questa misura deve essere adeguata allo scopo che si prefigge, cioè la tutela della dignità essenziale delle persone, e quindi essere pari almeno al 60% del reddito mediano riferito a ciascun paese. Per due soli voti, questo lo vorrei sottolineare, la proposta del gruppo socialista, del GUE e dei Verdi di invitare la Commissione a adottare una direttiva quadro e quindi di svincolare la questione del reddito minimo garantito in Europa dalla procedura di open method coordination e quindi delle procedure di soft law, non è passata per soli due voti, e sostanzialmente per l'opposizione del gruppo popolare. Allora, chiediamoci perché, in un certo senso, su questa misura sembrano convergere dal punto di vista pragmatico, diciamo, dal punto di vista operativo, dal punto le varie anime della sinistra o comunque, diciamo, le posizioni di un costituzionalismo democratico europeo. Ecco, il primo punto è che noi registriamo da numerosi anni dei messaggi che indicano che la tutela della dignità umana in campo sociale attraverso il reddito minimo è percepita ed è indicata come un diritto sociale fondamentale. Qui, diciamo, gli indicatori sono appunto classicamente multilivello. Abbiamo l'articolo 34, terzo comma della Carta di Nizza, che sia pure con una formula non felicissima, un po', diciamo, camuffata dal punto di vista tecnico-giuridico, comunque indica chiaramente questa misura. Abbiamo l'articolo 30 della Carta Sociale Europea, quindi non solo l'Europa a 27, ma l'Europa a 47, che anch'essa prescrive misure del genere. Vorrei ricordare che il Comitato Economico Sociale del Consiglio Europa nel 2010 ha bollato nel suo report sul rispetto dei social rights l'Italia per aver ignorato, per non avere una strategia di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale in maniera molto netta. E poi abbiamo segnali di diversa natura, in primo luogo la famosa ormai sentenza del 9 febbraio del 2010 del Tribunale Costituzionale tedesco, che ha annullato in sostanza per inadeguatezza le misure tedesche in materia di reddito minimo garantito, che arrivano addirittura all'erogazione di 800 euro mensili più tariffazioni sociali di varia natura in favore di persone che non godono di, appunto, di redditi adeguati a garantire un'esistenza dignitosa. Quindi il più, diciamo, filosofico la più filosofica delle corti costituzionali tedesche è intervenuta in materia, ma persino la nostra corte, in un contesto nazionale purtroppo sul punto non avanzatissimo, della sentenza numero 10 sulla social card, che era impugnata, notate bene, dalle regioni sotto il punto della lesione delle competenze regionali, quindi non aveva nessun titolo a intervenire sull'adeguatezza della misura, non poteva farlo. Comunque nelle righe dice chiaramente che si tratta di una prestazione che è totalmente, diciamo, irrilevante rispetto alle finalità che voleva in qualche modo tutelare. Comunque dice insomma abbastanza chiaramente che la tutela della dignità sociale delle persone che versano in condizioni di rischio di esclusione sociale è un bisogno, diciamo, una necessità vitale per un paese democratico, e che quindi, diciamo, bene ha fatto lo Stato, anche se con quella misura lì, ad intervenire. Poi abbiamo le fonti internazionali. La Corte Interamericana dei Diritti dell'Uomo ha già interpretato l'articolo 2 del CEDU, diciamo, il diritto alla vita, nel senso che questo diritto alla vita, purtroppo la Corte di Strasburgo è molto indietro in questo percorso, ma la Corte Interamericana, che è la Corte Gemella, ha compiuto questo passaggio e ha detto chiaramente che nel diritto alla vita rientra anche la copertura dei basic needs delle popolazioni dei paesi che sono appunto sotto tutela della Carta. Poi abbiamo, non so, le svariate fonti costituzionali internazionali, come le fonti brasiliane o le fonti sudafricane, gli interventi delle corti di quei paesi che appunto riconoscono il diritto al reddito minimo garantito come un diritto sociale fondamentale. Quindi, a mio parere, questa è, e poi lascio la parola agli altri, una spia molto importante, perché la costituzionalizzazione, soprattutto in questo intreccio, diciamo, multilivello tra fonti interne, fonti europee e fonti invece internazionali, indica delle tendenze profonde della cultura giuridica e della cultura sociale dei popoli. Cioè, insomma, purtroppo è difficile parlare positivamente in questi giorni della giurisprudenza di Strasburgo, è di poco pochi minuti fa la notizia della sentenza negativa, sul, a mio parere, sul caso Giuliani. Però, diciamo, la Corte di Strasburgo, adesso lasciando tra parentesi questa, questa sentenza, la Corte di Strasburgo utilizza questo metodo, no, del consenso che, va, che si deposita lentamente attraverso le fonti costituzionali, il dialogo tra le corti, le richieste di giustizia della società civile, che quindi trascende il contenuto, diciamo, e i compromessi storicamente, diciamo, connotati della politica in senso più stretto. Quindi questa è una spia importante. La sensibilità contemporanea non può più tollerare che le persone siano tenute a un livello che non è coerente con la dignità delle persone, che sia la, diciamo, la questione della povertà, forse con grande, diciamo, nettezza con le opere di Amartya Sen per primo, che è stato aprire, a politicizzare la questione della povertà e dell'esclusione sociale, appunto è diventato un grande tema contemporaneo, e quindi io credo che questo sia il background che ci induce a pensare che su questo, mantenendo ciascuno il nostro punto di vista sul lavoro, sul ruolo che il lavoro, le caratteristiche del lavoro può assumere nel futuro delle nostre società, questa sia una tendenza che nessuno poi oggi dovrebbe poter trascurare. Il secondo dato, che concludo e passo magari la parola a Sergio Mattone, che è stato, diciamo, il curatore di questo forum. Il secondo punto è effettivamente un punto più politico, più contingente, diciamo, in un certo senso, che tutti ci siamo resi conto in questi mesi che il nostro sistema di tutele sociali e anche di tutele lavoristiche è inadeguato a fronteggiare le trasformazioni del mondo produttivo contemporaneo, ma anche gli attacchi che vengono compiuti rispetto ai livelli, diciamo, che sembravano consolidati di welfare e di garanzia di diritti fondamentali. Secondo me un altro documento simbolo accanto a questo, diciamo, potrebbe essere il dialogo tra Gallino e il segretario della FIOM Landini, in cui certamente ognuno, senza rinunciare alla propria, diciamo, visione complessiva delle cose, alla propria filosofia sociale, però lo stesso Landini conveniva che diciamo, aver trascurato le tutele sociali finisce per diciamo, avere delle implicazioni devastanti anche sul terreno della difesa dei diritti tradizionali del lavoro, dei diritti che potremmo definire con un linguaggio più strettamente giuridico del contratto e non nel mercato. Tutti hanno visto, diciamo, il dato, diciamo, dal punto di vista espressivo più coinvolgente, più straziante, la solitudine dei lavoratori di Mirafiori. Beh, non è solo stata una solitudine in un certo senso politica, perché alcuni partiti non li hanno appoggiati, poi non voglio fare un discorso di merito che non eccede, diciamo, alla riunione di stasera, per certamente però è una solitudine istituzionale, perché una volta che quei lavoratori avessero perso il posto di lavoro, l'Italia, al contrario degli altri 24 paesi dell'Unione Europea e probabilmente di una quarantina di paesi dell'Unione, diciamo, dell'Europa in grande, non avevano, dopo un breve periodo di tempo, mi pare, se le mie reminiscenze lavoristiche non si sono troppo raffreddate, circa 12 mesi, no? Sì, avrebbero perso qualsiasi tipo di sostegno e unici lavoratori d'Europa sarebbero stati abbandonati in sostanza alla carità. Quindi questa è una situazione, diciamo, più politica e più sociale, ma certamente rende diciamo, bene l'urgenza di approntare delle soluzioni che siano all'altezza, appunto, della drammaticità dell'evento. Allora, nel nostro, diciamo, avremmo deciso questa piccola rivoluzione, cioè Livio, che è il direttore della rivista che ha ospitato il forum, si propone non tanto per fare un intervento, con la scusa che non sarebbe il suo campo, scusa non accolta, però diciamo, abbiamo recepito l'aspetto pratico di questa sua cosa, quanto vorrebbe fare delle domande argomentate. Quindi farò fare a lui delle domande e poi darò la parola agli altri tre interventi. Voi siete, diciamo, a voi spetta rispondere. Grazie. La cosa che ha detto ora Papi mi consente di evitare di dire che ero vittima di un suo inganno, perché la ragione della mia presenza è legata al fatto che questione giustizia, su sollecitazione anche mia per una convinzione che è quella del reddito di cittadinanza, del reddito di inserimento, del reddito minimo garantito, chiamiamolo come ci pare, e sia un tema centrale, diciamo anche sulla mia esistenza, di questo si è occupato. E si è occupato con un forum che io credo sia di notevole interesse, e questa peraltro è il mio titolo per esserci, cioè l'interesse e la curiosità, oltre a una serie di valutazioni che proverò a dare, non certo una particolare esperienza particolare conoscenza del settore che qualifichi come esperto e quindi come possibile relatore. Detto questo, passo subito allora a fare un'affermazione di fondo in cui credo e a prospettare tre domande o tre filoni di riflessione che secondo me sono importanti rispetto al tema di cui ci occupiamo. L'affermazione da cui muovo riprende le cose che diceva Papi ora. Io credo che sia molto importante, che sia centrale oggi affrontare questo tema anche in Italia, pur nell'epoca del conservatorismo compassionevole di Sacconi, che non permette niente di buono rispetto a una cosa di questo tipo. Ma secondo me è importante parlarne proprio perché ribalta in molta parte quello che è l'atteggiamento direi abbastanza diffuso nella politica e non soltanto a livello di politica governativa rispetto a come dire, al problema della povertà e delle varie forme di disagio sociale. Dico questo perché a me sembra che un spostare il discorso sul reddito e sul reddito di cittadinanza consenta di riprendere il discorso sulla pari dignità delle persone, sull'articolo 3 della Costituzione, e sotto il profilo della responsabilità dello Stato di assicurare delle condizioni di vita dignitosa a tutti, indipendentemente dalle difficoltà della vita. Uso questo termine perché io ricordo anche che non solo le politiche attuali del ministro del welfare, ma credo che ricordiamo un po' tutti anche un famoso articolo sul Corriere della Sera di del ministro dell'economia dell'ultimo governo di centrosinistra, che per certi aspetti rimpiangiamo ovviamente, di Padoa-Schioppa, che diceva che il problema della maturità anche della sinistra era quello di imparare che le persone non possono avere da parte dello Stato delle tutele generali contro le difficoltà della vita. Secondo me questo è il punto. Si tratta di vedere se riteniamo, poi bisogna vedere se si può realizzare, come si può realizzare, eccetera, ma alle spalle c'è, credo, una concezione che è una concezione culturale ideale di fondo. Riteniamo che questo sia uno dei compiti dello Stato oppure no? E questo una volta era un interrogativo che divideva destra e sinistra, oggi non so più bene che cosa sia. Io credo che però questo sia il primo problema fondamentale e, oltre alla validità in sé, il tema del reddito di cittadinanza pone anche una, tra virgolette, provocazione positiva rispetto a questa concezione ideale di fondo. Allora, partendo da questo, che è quindi la ragione della mia adesione ideale a una prospettiva di questo tipo, io pongo tre domande, tre filoni un po' di riflessione sul come si vuole operare e in che direzione si vuole operare e quali difficoltà ci si trova ad affrontare e come ci si attrezza ad affrontarle per la realizzazione anche nel nostro paese, sia pure come fanalino di coda, di un istituto di questo genere. Il primo problema, il tema del reddito di cittadinanza propone, mi sembra, uno spostamento dell'attenzione, della centralità dal salario al reddito, che è una delle ragioni di una qualche difficoltà di accettazione nei decenni scorsi da parte del mondo sindacale del tema del reddito minimo garantito, nel senso che la posizione, una almeno delle posizioni tradizionali, era il problema è quello di realizzare la piena occupazione, non di trovare altro tipo di interventi che tendano a riparare i danni del non riuscire a realizzare la piena occupazione. No, questo in maniera molto semplice, ve ne sapete più voi di me, come ho detto prima, e quindi lo dico forse in termini un po' rozzi, però tanto per porre in maniera schematica il tema in qualche modo era in questi termini, che non è solo, badate, un problema ideale, un problema anche qui solo di cultura della maggiore attenzione al tema del lavoro e del tentativo di recuperare forme che oggi sembrano impossibili, ma insomma di recupero di piena occupazione oppure di percorrere altre strade. E anche il presupposto per come in concreto poi si vuole congegnare una forma di reddito di cittadinanza, che può essere o una misura, non dico perenne, ma tendenzialmente dotata di una certa stabilità, o può essere solo una misura che tende a far fronte a momenti di difficoltà prima dell'ingresso al lavoro o nei momenti in cui il lavoro si è perso. Anche in termini del come si congegna l'istituto, evidentemente una prospettiva è diversa dall'altra, è diversa in termini normativi, è diversa in termini economici e quant'altro. Io credo che sia un problema, almeno io lo vedo come tale, e lo propongo a voi che più di me ne sapete. Secondo filone e seconda domanda, che è quella che fanno tutti: ma è possibile economicamente? La risposta che un po' fanno tutti, bellissima cosa, e però ci vorrebbero i soldi per farlo. Allora, anche qui io pongo una domanda con alcuni dei dati di cui dispongo e che sono quelli che tra l'altro riporta in particolare Fumagalli anche nel forum a cui si faceva riferimento prima. Secondo il rapporto sulla povertà dell'Istat, nel 2009 le persone povere, cioè con un reddito al di sotto della soglia di povertà relativa stimata in 599,80 euro al mese, era di 7.810.000 persone. Poi delle precisazioni ulteriori per chi si trovava al di sotto del 10%, chi si trovava al di sotto del 20%, e si arriva addirittura al di sotto del 20% di questa cifra che sembra già, erano ben 2.024.000 persone. Allora, il problema rispetto a una realtà di questo genere diventa, e si ricollega anche con il dato precedente, perché riporto qui un calcolo appunto di Fumagalli, e chiedo a chi più di me ne sa di interloquire con questo dato. E per finanziare un reddito minimo garantito a chi si trova in queste condizioni pari a 600 euro mensili, la spesa annua sarebbe di 20 miliardi di euro. Il problema è legato al rapporto con gli altri strumenti di trasferimenti diretti a reddito, ammortizzatori sociali e quant'altro, che secondo i calcoli sempre che fa Fumagalli sarebbero di 12 miliardi di euro, per cui l'elemento differenziale sarebbe di 8 miliardi di euro. E così Non è così il problema dell'integrazione o della sovrapposizione, come si pone? Economicamente che tipo di strade si possono seguire? Terza e ultima domanda, e terzo e ultimo filone, e una delle cose strane delle tante cose strane del nostro paese, come sappiamo tutti, un tentativo, seppure limitato e modesto, nel nostro paese è stato fatto con il decreto legislativo 237 del 98, che prevedeva appunto l'introduzione in via sperimentale in talune aree dell'istituto di reddito minimo di inserimento. Allora, la stranezza del nostro paese è che per quasi tutte le riforme in vari settori che sono stati fatti si è detto ci vorrebbe prima una sperimentazione. Si dice, ah no, non si... una volta tanto che è stata fatta, mi sembra che sia stata totalmente resa clandestina, perché il rapporto di valutazione e un minimo di dibattito sulla valutazione di una realtà che ha interessato alcune centinaia di comuni, non so esattamente quanti, ma non pochi, e tra l'altro non piccoli comuni, perché Napoli non è poi l'ultimo comune del mondo, insomma. Non... Allora, il tentativo di analizzare, può darsi che derivi da un'ignoranza mia, devo dire che sarei in buona compagnia, perché proprio l'altro ieri in una discussione su questo lo stesso Marco Revelli, che pure è stato il presidente della Commissione Sovranità, diceva che questo ormai sembra un segreto di Stato, il problema del riuscire a farne, non da qualche parte si trova, ecco, non è che sia, però il far diventare, come dire, oggetto di valutazione i risultati di quella che è stata voluta come una sperimentazione, e una sperimentazione si fa per definizione per vedere a quali risultati porta e se può essere estesa o dove va corretta, che cosa. Allora, uno stimolo politico, perché indipendentemente da quelle che sono le valutazioni attuali della maggioranza parlamentare, sappiamo quali sono, ma si discuta anche su questi dati, io credo che varrebbe la pena fare. Avevo detto che vi ponevo dei problemi, li ho posti e adesso a Sergio per primo per risolvere. Allora, niente, grazie di queste tre difficilissime domande, perché chiaramente, diciamo, ci portano un po' al cuore del problema. Io volevo, prima di dare la parola a Sergio, ricordare che siamo appena entrati in un'altra sperimentazione, cioè con l'articolo 48 bis del mille proroghe è stata introdotta una sperimentazione ulteriore di una forma che io credo aggiuntiva, così ho capito, della social card introdotta nel 2008, per cui solo nelle aree, diciamo, nelle città superiori a 250.000 abitanti viene data la possibilità di beneficiare di una social card che corrisponde a 1,33 euro al giorno. E però questa sperimentazione si contraddistingue in questo senso, non solo la classica, diciamo, plateale disparità di trattamento, perché solo nelle città sopra 250.000 abitanti si tiene in considerazione le esigenze alimentari dei cittadini, e proprio i basic needs, ma perché i beneficiari di questa prestazione non sono i cittadini, notate bene, ma sono i cosiddetti enti caritativi. Siccome in italiano l'aggettivo caritativi non esiste, il ministro del welfare ha 30 giorni di tempo per, diciamo, specificare questa nozione e indicare, diciamo, quali sono questi parametri in cui possono rientrare questi enti, che, insomma, possiamo già immaginare oggi quali siano, i quali diventeranno beneficiari di queste pacchi, diciamo, pasta, e poi potranno, diciamo, distribuirli ai cosiddetti aventi diritto. Quindi da tenere presente poi che con questa operazione lo Stato non spende nulla, perché la famosa social card, che comunque rimane teoricamente in vigore, non è stata utilizzata da nessuno, perché per avere questo o perlomeno da pochissime persone, e per cui ci sono moltissimi fondi non utilizzati, perché per avere il famoso euro 33 al giorno bisogna fare tali e tante pratiche burocratiche che persino coloro che sono in condizioni di gravissimo disagio sociale hanno sostanzialmente rinunciato, quindi è a costo, diciamo, zero questa operazione, oltre a essere molto discutibile dal punto di vista, appunto, del metodo, in quanto si passa attraverso non forme pubbliche di garanzia di un diritto sociale fondamentale, ma forme private di carità, in sostanza, sia pure finanziate e incentivate dallo Stato. Allora, adesso poi vedremo come rispondere alle tre domande di Livio, intanto do la parola a Sergio, che è stato colui che ha, diciamo, elaborato e ha curato, diciamo, questo forum. Sì, grazie. In effetti c'è stato questo tentativo con il forum, voluto dalla redazione di Questione Giustizia, da Livio, da me, di accendere nella sinistra giuridica e magistratura democratica un dibattito intorno a un tema riguardo al quale non vi era stata una adeguata dialettica. E quindi questo tentativo, cui ha contribuito tra l'altro con uno degli ultimi scritti Massimo Roccella, l'ho già ricordato Papi, io volevo ancora ricordarlo come un giuslavorista tra i più rigorosi, coerenti, amico di Magistratura Democratica. Purtroppo quando lui è scomparso improvvisamente il numero era già in stampa, quindi non abbiamo potuto ricordarlo, però abbiamo inteso dedicargli questo volumetto, La Controriforma della Giustizia del Lavoro, è il numero 6, no, di Questione Giustizia, che insomma ha lo stesso contenuto, per proprio ravvivarne la memoria. Un dibattito, sì, che stenta a diffondersi in una certa sinistra, in particolare ad esempio nel sindacato, che continua ad osservare con una certa diffidenza l'introduzione di questo istituto. Però anche questo è stato ricordato da Papi, lo voglio ricordare anch'io. È molto importante, a mio avviso, la presa di posizione di Landini, che oggi personalmente, insomma, considero un leader importante, con la lotta che ha realizzato e continua a portare avanti. Ci saranno anche poi delle, come dire, delle ricadute sulla sede, in sede giudiziaria, in relazione ai mortificanti accordi Fiat. E quindi mi sembra che nella FIOM, appunto, si sia già aperta questa, così, si è aperto uno spiraglio di attenzione nei confronti di questo istituto. Vedevo oggi su internet che il NIDIL, che è il sindacato dei, come sapete, dei lavoratori atipici, ha indotto per il 9 aprile uno sciopero, il call center, giornalisti, scrittori, eccetera, e ha denunciato la condizione di precarietà, e esplicitamente, testualmente afferma che questa condizione si traduce nell'assenza quotidiana di diritti, dal diritto allo studio al diritto alla casa, dal reddito alla salute, eccetera. E credo anche che la formulazione sia tronca, che si riferiscono indubbiamente al reddito minimo, perché non c'è un'area che più di questa soffra gli andamenti così occupazionali così alterni e quindi avverta l'esigenza di un istituto di carattere generale. Detto ciò, io vorrei svolgere, nei tempi ristretti, 10 minuti, non 15, pensavo. Ah no, 10, vabbè, io volevo toccare alcuni temi che in parte sono stati già sfiorati da Papi Bronzini, cioè sarò schematico. Allora, vorrei dire quanti sono, come dire, i punti, gli approcci che oggi consentono di aderire con convinzione alla introduzione di questo istituto. E però vorrei pure fare una brevissima riflessione sul rapporto tra reddito minimo, reddito di cittadinanza e tutela lavoristica, anche per inglobando in questa riflessione anche la prima delle domande che ha formulato Livio. Bene, allora sarò molto schematico, ecco. Innanzitutto vi è un fondamento teorico che si va diffondendo. Insomma, è stato in Italia, è stato Luigi Ferraioli che ha formulato la tesi secondo cui il diritto di sopravvivenza, il diritto elementare alla sopravvivenza, allo ius existentiae, è un diritto di carattere universale che quindi va applicato nei confronti di tutti, anche nei confronti dei migranti. È un diritto fondamentale che esclude, dice, scrive lui, ogni connotazione caritatevole ed elimina il rischio che possa considerarti uno stigma sociale del non lavoro, ecco, a differenza delle forme di assistenza che oggi vengono talvolta senza un'adeguata valutazione introdotte e poi lasciate cadere. E mi sembra che faccia un'osservazione importante laddove sottolinea che il reddito di cittadinanza sottrarrebbe i lavori precari al ricatto di un massimo sfruttamento, nel senso che potrebbero rifiutare i lavoratori che avessero questo orizzonte, ove vi fosse questo orizzonte, potrebbero rifiutare dei lavori che siano retribuiti in maniera assolutamente non dignitosa e quindi rafforzare quell'autonomia che è venuta meno soprattutto nell'area della precarietà, dove in sostanza si deve sottostare a tutte le condizioni proposte. Veramente questa formula ormai di imposizione non riguarda solo l'area della precarietà, come ancora una volta insegnano gli accordi Fiat che sono stati proprio formulati con la prospettiva del, come dice, del prendere o lasciare. Il secondo elemento che ci convince della necessità di un'introduzione di un reddito di cittadinanza, diciamo, sta nell'attuale assetto economico produttivo. Pare già menzionato anche Papi, oggi il sistema degli ammortizzatori sociali dimostra tutta la sua inadeguatezza e d'altra parte chi vi ha studiato al riguardo ne ha affermato, come Franco Liso, un docente, un lavorista, che adesso è la disorganicità elevata a sistema. E aggiungono gli economisti, giustamente a mio avviso, che era questo sistema pensato per la grande industria, cioè laddove vi era una alternanza di fasi di crisi, di recessione e di ripresa, laddove oggi questo ciclo capitalistico sembra esaurirsi, nel senso che l'impresa si trasforma il più delle volte in organismi di finanziarizzazione, l'esternalizzazione, la ricollocazione all'estero di alcuni rami, fanno intravedere per questi lavoratori precari un futuro ingresso nell'area della vera e propria povertà. Ma poi da un punto di vista prettamente giuslavoristico, è fenomeno evidente, vi ho accennato, della estensione progressiva dell'area della precarizzazione. E prevenendo, forse anticipando, voglio dire, un dibattito che sarà svolto da qui a poco, sempre a iniziativa del BIN, vorrei ricordare che la legge 183 del 2010, la riforma della giustizia del lavoro, ha ulteriormente penalizzato l'area della precarietà, perché ha introdotto una serie di decadenze che rappresentano, insomma, le 70 tagliole che tendono ad impedire il ricorso all'azione giudiziaria, ed ha svilito quanto mai l'importo del risarcimento dovuto in particolare ai lavoratori a termine, nel caso in cui venga ritenuto illegittimo il contratto a termine, quindi convertito il contratto stesso in un rapporto di lavoro indeterminato, attribuendo una indennità quanto mai esigua, anche se questa norma è già andata al vaglio della Corte Costituzionale, come non era difficile prevedere. Marco Revelli, nel suo questo prezioso volumetto Poveri Noi, precisa, e d'altra parte sono dati che si ritrovano nella relazione alla commissione d'inchiesta del 2010, questi sono dati precedenti, il libro di questi giorni, però dice che l'area del precariato, secondo Istat ed Isfol, si aggira intorno ai 3 milioni e mezzo di persone, costituite per oltre due terzi da lavoratori dipendenti a termine, per un terzo da collaboratori coordinati e continuativi. E osserva anche che, diciamo, le prospettive che si erano aperte con la valorizzazione dei lavoratori autonomi di seconda generazione, ricordiamo il libro fondamentale di Sergio Bologna, altro vi è stato, in cui hai partecipato anche tu, Papi, lui ritiene che queste prospettive siano andate deluse. Parliamo di lavoratori autonomi, che cosiddetta a partita IVA, in quanto a suo giudizio anche questi lavoratori su cui si erano puntate molte speranze vivono anch'essi da poveri, così testualmente Revelli. E quindi anche sotto questo punto di vista, non, naturalmente a parte di, la necessità di avviare, diciamo così, un contropiano che osteggi questo ampliamento della precarietà, però noi sappiamo benissimo che un'area di precarietà, di flessibilità quantomeno, quindi con una caratterizzazione di alternanza di prestazioni lavorative e pause, non potrà ormai venir meno per l'assetto della nostra industria. Con questo non voglio dire che si debba rinunciare, assolutamente no, a ridurre quest'area. Bisognerà trovare, ora non mi posso soffermare sulle varie formule attraverso le quali si potrebbero graduare i diritti dei lavoratori a secondo dell'accentuazione del peso della subordinazione. L'ultimo approccio cui vorrei fare riferimento è quello che è collegato a un diverso modello di sviluppo, cioè, per intenderci rapidamente, penso alle tesi di Latouche e di altri che, naturalmente, che sottolineano come una spinta incontrollata all'occupazione altera il mercato e crea inevitabilmente delle prestazioni lavorative quanto mai stressanti. Cioè, effettivamente, se vogliamo introdurre una linea di sviluppo sostenibile, come si suol dire, se vogliamo che i lavori di cura abbiano una ampiezza maggiore, se vogliamo destinare una parte, creare posti di lavoro laddove non vi sono eccessi di capacità produttiva, pensiamo ad esempio a tutto il risanamento del terreno idrogeologico, e allora noi dobbiamo distaccarci da questa ossessione produttivistica e quindi pensare anche ad un'alternativa al posto di lavoro che può essere, anzi non può che essere, rappresentato dal reddito di cittadinanza. Vorrei poi accennare, per quanto riguarda l'aspetto economico-finanziario, e io evito di rispondere alla domanda di Livio, vorrei citare, oltre all'analisi di Fumagalli, vorrei richiamarmi a quei bilanci che cittadinanza attiva, credo che sia, sbilanciamo, ci sia un'espressione di cittadinanza attiva, redige ogni anno, e che sono molto interessanti perché dimostrano... Non è importanza, però... Che cosa? Sono diversi, sì, non sapevo se fosse, cioè bisogna rifarsi il bilanciare, sono diversi perché si vede come spostando le poste del bilancio si possano ricavare dei saldi attivi che potrebbero appunto anche essere investiti in questa istituzione. Per quanto riguarda le fonti normative, vi è stato già un accenno da parte di Papi, e ha osservato soprattutto il panorama sovranazionale e internazionale. Vi sarebbe da aggiungere, a mio avviso, da aggiungere anche gli articoli 22 e 25 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, i quali, a differenza dell'articolo 36 della nostra Costituzione, non dicono che il lavoratore ha diritto a un reddito sufficiente, ma dicono che ogni individuo ha diritto ad un reddito sufficiente, e naturalmente cogliete bene la differenza significativa. Ma a parte le fonti internazionali e la sentenza numero 10 della Corte Costituzionale, a parte la giurisprudenza e la sentenza, in particolare il Tribunale Costituzionale tedesco del 9 febbraio dello scorso anno, io credo che si possa, anche dalla nostra Costituzione, in particolare dall'articolo 38, perciò ho portato questo codice di procedura civile perché, solo perché vi è trascritta la Costituzione, l'articolo 38 che riguarda forme di previdenza e assistenza, si possa anche desumere la necessità per lo Stato dell'introduzione di un reddito. Io credo che, insomma, ci si è disabituati in questi anni, una cosa che mi capita più volte di dire, a attribuire la pregnanza necessaria alle norme costituzionali, quella pregnanza che eravamo abituati appunto ad individuare, a cogliere in tutte le sue implicazioni negli anni 70. E senza fare molti discorsi, vorrei notare che in un commentario alla Costituzione del 1979, quindi anni in cui vi era questa, si inforcavano questi occhiali tesi a valorizzare la Costituzione, un giurista, un giuslavorista molto noto, che però non può essere certamente considerato di sinistra, parlo di Mattia Persiani, un grande giurista, grande avvocato che assiste costantemente le imprese, le più grandi imprese del paese, scriveva appunto in quegli anni che non vi è una diversità di compiti nel momento in cui lo Stato interviene diciamo erogare prestazioni previdenziali o assistenziali, e che questa norma, il momento essenziale e qualificante dell'articolo 38, desidero leggere queste poche righe, risiede proprio nell'affermazione di un diritto dei cittadini, lavoratori o no, nei confronti dello Stato, tenuto in ogni caso a realizzare la libertà del bisogno. E poi lo collega naturalmente all'articolo, però è così, all'articolo 3 capoverso, e osserva come per realizzare per tutti i cittadini la condizione di quelle condizioni materiali senza le quali il riconoscimento di qualsiasi diritto appare privo di senso, è necessario dotarli di un reddito minimo. Detto ciò, e visto che il mio tempo a disposizione è scarso, volevo anche far riferimento, volevo solo per completezza far riferimento ad altre sentenze, per completezza riguardo a questo breve panorama giurisprudenziale, ho citato la dottrina, a queste sentenze della Corte Costituzionale che risalgono al fine degli anni 90 ed anni 80, che a mio avviso sono interessanti perché affermano che il diritto all'abitazione è un diritto fondamentale, perché è un diritto fondamentale e che è collocabile, diciamo, nell'ambito dei diritti inviolabili dell'uomo di cui all'articolo 2, che è un diritto fondamentale ed immanente nel nostro ordinamento, perché la vita di ogni persona deve riflettere ogni giorno e su ogni aspetto l'immagine universale della dignità umana. Ora io mi chiedo che differenza vi sia tra questo diritto, che è fondamentale, e il diritto ad un reddito minimo, che naturalmente è complementare a questa vita dignitosa che secondo le stesse sentenze della Corte Costituzionale lo Stato dovrebbe assicurare. Insomma, è legittima una domanda molto banale che esiterei a fare. Insomma, vi è un diritto dello Stato di evitare che un cittadino muoia per assideramento o per fame o per patologie collegate a queste condizioni precarie di salute? Io credo che è il momento di proporsi questo interrogativo, e che anche una norma costituzionale come l'articolo 38, certo tanto più se collegata in particolare all'articolo 34 della Carta di Nizza, potrebbe indurre ad una risposta positiva. Detto ciò, volevo ancora 5 minuti se li ho per compiere qualche riflessione di carattere generale. Certamente qui mi riallaccio alla domanda di Livio, che non era soltanto una domanda, era anche una considerazione, cioè se sia compatibile questo istituto, e posso formulare questo interrogativo perché mi ha, come dire, accompagnato per molto tempo, ha accompagnato anche me per molto tempo, se sia compatibile l'introduzione di questo istituto con una valorizzazione delle prestazioni lavorative con una tutela intensa nell'ambito del rapporto. Questo sarebbe un discorso molto lungo, cioè che bisognerebbe partire da quello che è il senso del lavoro, quindi rischiamo di andare molto indietro anche nel tempo. Io lo vedo così, insomma, non sarebbe sbagliato, soprattutto in questo periodo, esaltare il lavoro. Non a caso nel napoletano, dove ho vissuto tanto tempo, si parla della fatica, perché dà meglio questo senso che non è soltanto di valori di esaltazione del sé. E io sono convinto, insomma, che è necessario sviluppare i contropoteri dei lavoratori nell'ambito di un rapporto in cui la subordinazione diventa sempre più opprimente, i ritmi di lavoro, e il dominio, insomma, da parte della gestione aziendale è sempre più oppressiva. Quindi una lotta che va proseguita. Però nel corso del tempo mi sono andato convincendo che il lavoro non può avere quella centralità che gli veniva assegnata in passato. Cioè non è più, non so se lo dici tu in questo intervento, non è più un cemento sociale di carattere generale, e quindi vi è la necessità di individuare altri collanti per ritrovare una solidarietà non solo tra cittadini, ma direi anche tra cittadini e migranti. Ora, io ho constatato che in qualche versione, in qualche formulazione teorica, intendo dire, del Basic Income, vi è un appannamento di questi obiettivi. Lo stesso Papi, mi sembra, riconosca qui o in un altro articolo che il Green Paper del 2006, ad esempio, no, era un po' carente sotto questo aspetto, sembrava più spingere verso un sistema di flexicurity più fondato sull'aspetto della tutela nel mercato piuttosto che nella tutela del rapporto. Questi sono poi i termini sui quali ci confrontiamo a volte, ma poi dirò subito che spero in un superamento, dirò da qui a un minuto, tra lavoristi e redditisti, questo gergalismo che a volte utilizziamo, ovvero per distinguere, come quando si fanno le squadre, tu sei un lavorista, vabbè, si vede. Io credo che si debba appunto puntare a una riduzione del peso del lavoro, della sua ossessività. E che tuttavia mi sono venuto convincendo che una lettura corretta della flexicurity, come lo stesso Papi Bonzini afferma, si concili anche con un maggior rigore nei rapporti di lavoro. Certo, a tuttora, se ho compiuto anche in questi giorni qualche lettura sul versante sindacale, è difficile da parte dei sindacalisti tradizionali o meno un abbandono di questo concetto della centralità del lavoro. Ho portato qui alcuni scritti, ma non ho il tempo per leggerli. Vi è però dico anche che in una parte della società vi è certamente soiettata questa idea che il lavoro abbia un carattere costruttivo, identificativo, e quindi, come ho cercato di dire insomma, in un mio articoletto di un paio d'anni fa su questione giustizia, io credo che si debba puntare, come dire, su un parallelismo, cioè che lasci la possibilità ad una parte dei cittadini o non, dei residenti, di puntare su lavori stabili che evitino lo stress delle pause lavorative, della cessazione reiterata del rapporto, e consentire peraltro soprattutto alle aree giovanili che si riconoscono in queste aspirazioni, che non vedono nel lavoro un obiettivo appagante, ma che piuttosto aspirano ad altre espressioni della propria personalità, si dovrebbe consentire quindi di mantenere in piedi un sistema lavoristico rigoroso nella tutela del rapporto, e quindi che sia riportato ad una democratizzazione della gestione aziendale, e consentire per altro verso che si liberino queste diverse soggettività attraverso il ricorso al reddito di cittadinanza, che pertanto sotto questo profilo noi dobbiamo certamente sostenere. In ogni caso l'attribuzione dei diritti di cittadinanza, come dicevo, non può essere più fondata sull'occupazione, ma su altri titoli di legittimazione che non consistono, a mio avviso, solo, qui ci concludo, nel reddito di cittadinanza, ma, come si mette in luce in molti saggi, nella gratuità di prestazioni sociali fondamentali, quali i trasporti, la scuola ed altre analoghe attività che sono essenziali in uno svolgimento ordinario di una vita. Fermo qua. Grazie Sergio di queste profonde considerazioni. Qui vedo il cammino che tutti noi abbiamo fatto in questi anni per cercare di limare le nostre posizioni e ridefinirle a partire dal dialogo con coloro con cui abbiamo condotto in questi anni le principali battaglie garantiste in campo sociale. Quindi sono considerazioni importanti. Volevo solo fare due brevi considerazioni proprio a proposito della prima parte del tuo intervento, in cui cerchi di superare quella contrapposizione che si è sviluppata, che è stata artificialmente teorizzata negli anni Ottanta di contrapposizione tra diritti nel contratto e diritti nel mercato, dicendo che dal punto di vista di osservatori, diciamo, democratici neutrali, come può essere l'economista keynesiano democratico Paul Krugman, che quindi guarda, diciamo, l'Europa dal punto di vista americano, da un punto di vista appunto avanzato e keynesiano, ma comunque neutrale rispetto a quello che avviene nelle singole polemiche della sinistra all'interno degli stati, Krugman dice, in questo, diciamo, vibrante tentativo di difesa dell'ideale, della prospettiva federalista dal punto di vista sociale dell'Unione, dice: in gran parte del continente le leggi contro i licenziamenti hanno limitato l'aumento della disoccupazione, mentre la previdenza sociale ha assicurato anche a chi era rimasto senza lavoro un minimo di assistenza sanitaria e un reddito di base. Certo, il PIL europeo è crollato come quello americano, ma gli europei se la sono cavata molto meglio. Poi dice: vabbè, a questo punto però devono andare avanti, fare la federazione, difendere le conquiste sociali. Quindi, dal punto di vista di un americano democratico, le due norme, diciamo, che in qualche modo riassumono il senso e la ratio dello Stato sociale, del modello sociale europeo, sono la norma principe della tutela del contratto, cioè i licenziamenti, e la norma che in qualche modo dà senso alla tutela della cittadinanza, come il reddito minimo garantito. Quindi questo, diciamo, mi sembra un approccio importante che testimonia come, diciamo, il modello sociale europeo possa essere letto, diciamo, unitariamente e secondo appunto i principi unici. Adesso darei, diciamo, la parola a Peppe Allegri del BIN Italia. Premetto, siccome nessuno di noi è economisti, e quindi temo che sia difficile stasera rispondere a Livio, ma potrebbe essere per lui un'occasione venire, diciamo, dei successivi incontri per definire questa cosa. Però adesso, a parte, diciamo, le elaborazioni di Fumagalli, che effettivamente spiega come servirebbero, diciamo, circa 6-7 miliardi, no? Consideriamo che le province costano, diceva la Lega quando era contraria, adesso non lo dice più, comunque no, non lo posso dire, non lo voglio dire, però per fare un esempio, però insomma esistono svariate simulazioni, c'è la carbon tax, la Tobin tax, eccetera. Però c'è un saggio in cui si fa una certa simulazione del costo, ed è quel testo di Astrid su il Well, non mi ricordo più il titolo, comunque è, diciamo, in occasione dei 10 anni della Commissione Onofri. Questo studioso, che si chiama Ranci, fa una simulazione su un reddito minimo circa parametrato su, mi pare, 300 euro, e calcola a famiglia, e comunque calcola circa un 2 miliardi e mezzo il costo. Quindi, considerando che a noi sembra che questa prestazione vada perlomeno raddoppiata, comunque l'entità, secondo questa simulazione e anche altre simulazioni, sarebbe appunto dell'ordine di 5 miliardi, quindi è, diciamo, un problema certamente per le nostre appunto il costo dell'Italia mi pare che sia stato 9 miliardi, quindi insomma comunque rientriamo nell'ambito di spese che sono, diciamo, gestibili nell'ambito di una razionale gestione del, anche se ovviamente vanno definite con rigore. Adesso diamo la parola a Peppe. Non diciamo. Diceva la Lega che costava un miliardo all'anno. Solo adesso, 2 anni fa, ha fatto 16 miliardi l'anno. Mi sa di più il miliardo. No, però. No. Però scusate, voi dovete distinguere le funzioni dal costo burocratico. Comunque su questo. Allora io proporrei. Sì, grazie. Allora proporrei questo schema. Adesso diamo la parola a Giuseppe Allegri, Peppe Allegri del BIN. Poi farei intervenire i nostri due ospiti politici, l'assessore e del lavoro della provincia di Roma e il senatore del PD presente, e poi farei concludere dagli interventi programmati Brunetti. Aprirei la discussione, vedo in sala anche degli amici giuslavoristi che certamente hanno qualcosa da dire anche sulle suggestioni di Sergio su un'interpretazione evolutiva del nostro articolo 38 della Costituzione. Sì, grazie, ecco appunto, talmente tante le cose da dire che me ne perderò la metà sicuro, quindi mi scuso. Adesso cercando pure di riprovare a rispondere alle tre osservazioni di Livio, molto in realtà mi ero preparato un altro tipo di intervento, però forse questo tipo di intervento che mi ero preparato lo potrei recuperare a partire dalle ultime considerazioni di Sergio e dalla valorizzazione di questo dibattito dentro questione giustizia, perché in realtà a me è sembrata una cosa molto molto utile e direi che potrebbe essere fondamentale per ripensare quel rapporto che te citavi tra lavoristi e redditisti, lavoristi e non lavoristi. Io azzarderei questa, farei questa cosa a tesi un po', poi vediamo che ne dice anche l'avvocato Brunetti, insomma, che se io ho la sensazione che dopo l'avvio della crisi del 2008-2010 questa radicale distinzione e antagonismo, per quanto fittizio per certi versi, tra redditisti e lavoristi sia andato affievolendosi, diciamo, e che ci sia una tendenziale movimento politico culturale, insomma, di avvicinamento tra citavi il sindacalista Fiom, ma io citerei Rinaldini stesso, Nidil, una parte dell'FLC, il segretario della Federazione Lavoratori della Conoscenza, Pantaleo, e la piattaforma della Federazione Lavoratori della Conoscenza, cioè CGL, insomma, per capirci, c'ha nella sua piattaforma esplicitamente il reddito di base, il reddito cittadinanza, il reddito garantito. La mia sensazione è che, insomma, ecco, rispetto agli anni 80 e 90, la condizione di crisi, di assedio della cittadella dei garantiti, per capirci, insomma, ecco, porti a un ripensamento delle garanzie e a un ripensamento necessario del welfare e a una consapevolezza di questo ripensamento dei due soggetti che tradizionalmente sono stati forse meno attenti a questo ripensamento, e cioè proprio le forze sindacali e per certi versi anche le forze di sinistra, diciamo, perché a me non mi viene mai da dimenticare le considerazioni che fece D'Alema qualche anno fa dicendo perché il problema italiano in realtà sconta un ventennio di arretramento, mi sembra che Papi Bronzino abbia messo bene in luce, ma l'ha detto anche Sergio, no? Un ventennio di arretramento rispetto alle trasformazioni del welfare, cioè noi abbiamo assistito dalla metà degli anni 90 in poi, tendenzialmente dal pacchetto Treu in poi, a una deregolamentazione del mercato del lavoro, e quindi a una flessibilizzazione delle forme del lavoro che hanno assecondato il cambiamento dei sistemi di produzione, insomma, adesso senza farla troppo lunga, e a una totale assenza delle riforme di quelle strutture di garanzia e di tutela che dovrebbero accompagnare il cittadino lavoratore o non lavoratore, cioè il contrasto tra un sistema di welfare tradizionalmente, chiamiamolo fordista, lavorista, tra molte virgolette, diciamo, e invece un sistema di riforme del lavoro che è andato in completa deregulation. È paradossale che lo dicesse lui, abbiamo sbagliato perché abbiamo deregolamentato il mercato del lavoro senza assecondare le forme di tutela di estensione per quelle nuove forme del lavoro che stavano al di fuori delle garanzie del lavoratore standard. È paradossale che l'abbia detto D'Alema perché, insomma, vale a sé che stava in quella compagine governativa che ha avviato il processo di deregolamentazione del mercato del lavoro. E però, diciamo, la speranza, l'auspicio e la possibilità anche di pensare alle crisi come occasioni costituenti, diciamo, ci permettono, secondo me, e l'esempio di questo dibattito dentro questione di giustizia è anche questo, di ripensare anche ai nostri pregiudizi culturali, ideologici, diciamo, forse anche ai nostri fondamenti, diciamo. Motivo per cui il mio tentativo, diciamo, lo enuncerei sotto due profili. Allora, da una parte lo sforzo tra società civile e forme organizzate della sinistra e sindacali, diciamo, di ripensare al welfare da una parte anche dal punto di vista culturale, cioè la necessità l'elemento necessario di introdurre forme di garanzia universalistiche a partire dal reddito dovrebbero andare di pari passo con quell'altro elemento che metteva in luce Sergio Mattone, cioè ripensare le forme del sistema sociale, insomma, dei sistemi sociali, dalla dai servizi pubblici, ma metterei all'accesso alla cultura, cercare di rimodellare, cosa che, di rimodellare quindi il sistema sociale relativamente inteso, cosa che appunto lo spazio, il sistema italiano sconta con maggiore fatica, perché rispetto al Nord Europa, e questa è l'indicazione degli anni 90, l'indicazione persa negli anni 90 e negli anni zero, diciamo, per l'Italia, cioè c'era la possibilità di pensare a una trasformazione dei sistemi sociali che accompagnassero le trasformazioni delle forme del lavoro e che aveva tutte le coordinate giuste per essere pensata all'interno di una nuova possibilità del pensiero riformista, progressista, come vogliamo chiamarlo. Io ripenso ai lavori di Alain Supiot negli anni 90, ripenso agli studi di... No, Supiot sosteneva la teoria dei cerchi concentrici, giusti lavoristi sanno molto meglio di me, no? Cioè il fatto che ci fossero, insomma, un nocciolo duro di diritti e di garanzie da tutelare al di là della forma del lavoro, per la persona, per la dignità della persona, diciamo, e che poi si sarebbero andati a estendere, diciamo, a seconda del tipo. Quindi... E Supiot scrisse quel fantastico libro che era una ricerca commissionata dalla Commissione Europea, proprio titolata, no? Au delà de l'emploi, cioè al di là del lavoro, era la fine degli anni 90. Negli stessi anni, nell'Unione a 15, venivano fatti degli studi di fattibilità sul reddito, ci fu tutto, sul reddito garantito, il reddito di base a livello europeo, ci fu tutto un dibattito che forse alcuni ricorderanno tra Van Parijs, von der Boot e altri sul cosiddetto, ci partecipò anche Ferrera se non ricordo male, sull'eurostipendium o eurodividendum, cioè la possibilità di ripensare, non di ripensare, di affermare un'Europa sociale a partire dal nocciolo duro della garanzia di un reddito di base. Evidentemente quello era uno studio di fattibilità e una discussione fatta sull'Europa a 15, in cui evidentemente le difficoltà sull'Europa 27, diciamo, aumentano. Ciò non toglie che, insomma, c'è, ecco, la possibilità, quindi, nell'attuale odierna congiuntura di crisi, di deperimento delle garanzie anche dei cittadini, dei lavoratori garantiti, insomma, ecco, di deperimento delle strutture di tutela anche dei lavoratori garantiti, di ripensare completamente le forme di tutela e di garanzia della persona al di là della condizione di lavoro esistente o meno, partendo dall'assunto che il reddito di base, il reddito garantito, diciamo, sì, da una parte può essere visto come uno strumento, diciamo, in cui le istituzioni assistono le persone, è uno strumento, insomma, di integrazione della cittadinanza, diciamo, per certi versi, no? Ma dall'altra è uno strumento di valorizzazione degli spazi di autonomia e di libertà del singolo, cioè della possibilità di accettare o rifiutare un determinato lavoro, di fuggire dalle condizioni quasi neoschiavistiche di lavoro, di tutta, non solo ormai di una generazione in realtà, perché l'esempio dell'impossibilità del conflitto e dell'isolamento del conflitto nella questione Fiat, che sia Pomigliano o Mirafiori o Melfi, insomma, è dà l'esempio di impossibilità anche per coloro che abbiamo sempre pensato, insomma, la dicotomia tra insiders e outsiders, volente o nolente, è tendenzialmente ampiamente in crisi. Quindi la possibilità di una crisi che sia un'occasione di ripensamento anche per le strutture, diciamo, più tradizionalmente assestate sulle forme tradizionali di Stato sociale, diciamo, io la vedo come una possibilità reale. Fermo restando, evidentemente, certo, Sacconi, il libro verde e il libro bianco di Sacconi. Il libro verde e il libro bianco di Sacconi, bisogna dirsi, è una cosa tremenda, una cosa, diciamo, che rivalorizza il welfare, peggior welfare familistico. Mi pare che nel libro verde a un certo punto citava l'esempio del welfare dalle famiglie ai tabaccai, ai carabinieri, alle caserme, cioè una cosa tra il paternalismo, diciamo, e il welfare come una struttura di controllo, diciamo. Quindi evidentemente non ci abbiamo una possibilità di interlocuzione, ma questo credo che sia, non vada neanche detto, diciamo, no, rispetto all'orizzonte di governo, diciamo. Il problema, ahimè, temo che sia invece capire se ci sono degli spazi di interlocuzione rispetto invece alla possibilità di pensare a una nuova sinistra all'altezza delle sfide complesse del XXI secolo. E allora Sergio Attone, ributtandoci nell'attualità, citava l'esempio del 9 aprile, no? In cui è una congerie di soggetti che convocano questa giornata, che purtroppo non è uno sciopero perché è sabato, è semplicemente una manifestazione. E c'è NIDIL, c'è tutta, quindi una serie di strutture, il NIDIL, diciamo, che comincia a parlare di reddito garantito, è già questa una piccola novità, ma i soggetti che hanno convocato quella giornata lì, in cui tra altre cose stasera ci sarà un'assemblea alle 9 a cui andrò a partecipare, ci sono anche i lavoratori, i cosiddetti lavoratori autonomi, quelli di seconda generazione. Quello dei lavoratori autonomi di seconda generazione è un esempio cristallino di iniquità del sistema sociale attuale. Cioè, gli lavoratori autonomi, ai quali appartengo anch'io, perché accanto a fare ricerca di precario sono anche la partita IVA nella formazione, pagano il 27% di INPS per la previdenza sociale, non ricevendo in cambio nulla. Cioè il 27% su ogni, la cosiddetta gestione separata, no? Che è stata introdotta da metà degli anni 90, non gestendo in cambio nulla e permettendo con quel 27% di INPS per i lavoratori autonomi, diciamo, in realtà il surplus di bilancio dell'INPS, che è un surplus, l'INPS è in bilancio attivo, pure quello di 9 milioni all'anno, è proprio perché in realtà... Perché di fatto quei versamenti poi nostri vanno a finire a pagare la cassa integrazione, la CIGS, la cassa integrazione straordinaria ai lavoratori dipendenti del privato, diciamo. Quindi è chiaro che è talmente evidente, diciamo, no, la condizione di iniquità di questo sistema sociale che non può che, tant'è che anche su questo le associazioni che cercano di autorappresentare i lavoratori autonomi, penso ad ACTA, diciamo, che è un'associazione che organizza i lavoratori del terzo orario avanzato, si sta organizzando con un suo manifesto proprio per cercare di almeno avviare da una parte la battaglia sull'INPS, dall'altra sulla estensione delle garanzie, il riconoscimento delle garanzie, a pensare a partire da maternità, malattia, insomma le cose più basilari che dovrebbero essere il fondamento, diciamo, di ogni condizione di esistenza e di lavoro dignitosa. Allora, chiuderei, perché così diamo la possibilità dell'intervento dei nostri altri invitati e amici. Allora, le tre domande che poneva. Allora, sulla questione della compatibilità economica, in realtà ci sono degli studi di fattibilità e c'è, io credo, la possibilità certo, sulla questione della sperimentazione, del resoconto sulla sperimentazione, è una cosa paradossale. È una delle, secondo me, delle lacune maggiori della sinistra del governo, che non riesce a valorizzare neanche minimamente quello che fa, perché probabilmente ci crede anche poco a quello che fa, d'accordo? E su quello ciò non toglie, ripeto, che sia a livello comunitario sia a livello nazionale ci sono degli studi di fattibilità e ci sono poi delle sperimentazioni a livello locale e regionale, perché poi non dobbiamo pensare il livello statuale come un livello monolitico, ecco, cioè la possibilità del ripensamento del welfare e dell'introduzione di un reddito di base, un reddito garantito, che io preferirei alla formula reddito di cittadinanza, perché lo scivolamento sulla cittadinanza è sempre più ambiguo ormai, ma parlerei proprio all'inglese di basic income, diciamo, ecco, è la possibilità di pensare da una parte un welfare calibrato sui diversi livelli di governo e dall'altra siamo nella regione Lazio, cioè abbiamo un esempio virtuoso di una legge regionale sul reddito garantito, sul reddito di base, che tra le altre cose è una legge virtuosa perché va a coprire anche i precariamente occupati, d'accordo? E è una legge virtuosa che naturalmente dovrebbe essere rifinanziata, in realtà dovrebbe essere valorizzata piuttosto che invece abbandonata, diciamo, e permetterebbe proprio il livello regionale, alla luce della riforma del titolo quinto anche e del ripensamento del rapporto sussidiario tra i livelli di governo, cercare di reintrodurre un principio virtuoso del principio di sussidiarietà che faccia leva sull'aspetto dell'autonomia e dell'autorganizzazione e non sull'aspetto della deperimento dell'intervento pubblico nei sistemi sociali. Cioè potrebbe esserci invece un lavoro virtuoso, per esempio tra livello provinciale e livello regionale, evidentemente sull'erogazione del reddito, ma non solo, anche sul ripensamento di tutta una serie di elementi di forme di assistenza, di garanzia, di tutela. Quindi, allora, non più la visione monolitica dello Stato, insomma, ma la possibilità di calibrare gli interventi per la garanzia del reddito tra i diversi livelli di governo, a livello, ripeto, locale, regionale, provinciale, regionale, tendenzialmente a livello comunitario. Dall'altra parte, chiudo con auspicio, diciamo, ecco, io ho la sensazione che la campagna di avvicinamento che stiamo facendo al 9-10 giugno, io credo che abbia anche questa aspettativa, diciamo, questo obiettivo, e soprattutto il convegno del 9-10 giugno, cioè il tentare di portare la questione del reddito garantito al centro dell'agenda politica di una nuova sinistra con molta retorica, diciamo, di tutte quelle forze politiche, culturali, sociali, diciamo, che prendono sul serio, diciamo, la possibilità di trasformare i sistemi sociali e la possibilità, io direi, azzarderei, di avere una nuova idea di società, senza essere retorici, ma invece essendo materialmente ancorati con i piedi per terra. Io credo che anche tutti, la gran parte dei movimenti che si sono mossi negli ultimi 2 o 3 anni, diciamo, e anche tutti i movimenti frastagliati dei lavoratori della conoscenza, dei cosiddetti precari, degli intermittenti, degli ultimi ormai 10 anni in realtà, hanno cercato di tendere questo filo rosso dal punto di vista dei claims, diciamo, della possibilità di pensare un nuovo welfare da una parte e l'estensione di una serie di garanzie a partire dal reddito garantito e di base per tutte le figure, per tutte le persone al di là della forma del lavoro della presenza o meno del lavoro in realtà, ecco. Allora il mio auspicio è questo, che si crei, diciamo, a valle dentro il percorso entro il 9 e il 10 giugno, auspicio come BIN evidentemente, ma soprattutto successivamente, insomma, di combinare questa azione intelligente tra società civile organizzata, diciamo, da una parte, e istituzioni politiche sensibili alla trasformazione dei sistemi sociali. C'è una chance anche in più. Papi citava la risoluzione del Parlamento europeo sul reddito minimo garantito, diciamo. E lì dal 2012 entrerà a regime l'iniziativa dei cittadini europei. L'iniziativa dei cittadini europei, la faccio molto breve, è un'iniziativa che permette a 1 milione di firmatari di presentare una proposta di legge alla Commissione. Ci sono tutte le carte in regola, e io so che ci sono già associazioni che si stanno organizzando, tra quali anche il BIN, a livello nazionale europeo, per presentare, recependo la direttiva parlamentare, la risoluzione del Parlamento europeo, diciamo, però giocando su una doppia sponda, recepire la risoluzione del Parlamento europeo per presentare una proposta di legge alla Commissione europea, e dall'altra tessere una rete continentale che faccia una campagna specifica rivalorizzando quelle tematiche portate avanti negli anni 90 e negli anni 2000 da Van Parijs e compagni, diciamo, sulla possibilità, insomma, finalmente di accettare l'orizzonte europeo, non solo accettarlo, insomma, ma davvero dargli una costituzione materiale, tra virgolette, a un'Europa politica e sociale che, ce lo diciamo da troppo tempo, ne abbiamo quanto più bisogno possibile. Vi ringrazio, scusate la lunghezza. Grazie Peppe. Adesso darei la parola ai nostri ospiti politici. Li facciamo uno lì, uno qui. Direi che Peppe ha ricordato appunto le finalità che intendiamo raggiungere anche con questo meeting del 9 e 10 giugno, di cui abbiamo il patrocinio proprio della provincia di Roma, che è quello, naturalmente, che è proprio quello di cercare, certo, salvaguardando, diciamo, la discussione teorica, l'approfondimento delle varie posizioni, però di trovare una proposta praticabile per l'Italia e per l'Europa. Una proposta praticabile per l'Italia, nel senso che, come ricordava Peppe, noi abbiamo avuto un'ultima importantissima esperienza anche locale di ricezione delle indicazioni europee con la legge regionale sul reddito. Era una legge coraggiosa, che recepiva appunto indicazioni che Peppe ricordava, il famoso rapporto Supiò del 1998 sulle trasformazioni del lavoro e anche del welfare in Europa, perché cercava appunto di garantire ai cittadini di una particolare regione d'Italia un reddito congruo in ordine ai 580 euro più forme di tariffazione sociale, quindi un sostegno ragionevole e sensato a persone in difficoltà, e soprattutto condizionava l'erogazione di questo reddito a parametri alla fine ragionevoli, perché si perdeva questo sostegno, si perde perché la legge non è stata non rifinanziata, ma diciamo esiste ancora formalmente, si perdeva questo sostegno non in caso del rifiuto di accettare qualsiasi prestazione lavorativa, ma una prestazione lavorativa coerente con il bagaglio professionale, le aspirazioni, i curricula dell'individuo, quindi una forma diciamo ragionevole e non particolarmente problematico condizionamento. Purtroppo la legge non è stata rifinanziata, le iniziative abbiamo cercato di sostenerla, difenderla e anche come Binitalia, e se non altro di farla pagare a coloro che erano rientrati nel novero dei beneficiari per l'ultimo anno, però purtroppo diciamo questa è ancora una battaglia che si deve fare. Certamente la prospettiva di un reddito, e poi sentiremo cosa ne dicono, diciamo, che qual è il punto di vista dei nostri ospiti, la prospettiva, diciamo, di un reddito nazionale, reddito garantito nazionale, si deve muovere anche con dei parametri nazionali, perché una legge cornice che indichi a tutte le regioni e possibilmente indicando quelle famose prestazioni sociali indispensabili di cui parla il 117 della Costituzione, in mancanza delle quali è chiaro che in un periodo di crisi e di tagli le regioni sono del tutto inadeguate ad affrontare. D'altra parte ci sembra che questa cosa vada legata necessariamente a, appunto, una prospettiva europea, di cui lo strumento fondamentale in questo momento mi pare proprio il diritto di iniziativa dei cittadini europei, che diventerà operativo dall'aprile del 2012. Quindi darei la parola all'assessore di Roma e della provincia di Roma Smeriglio. Tanto penso che diciamo, questo è un dibattito che può essere, diciamo, storicizzato, che viene da lontano e che però, se noi ogni volta in qualche modo rifacciamo riassunto delle puntate precedenti, rischiamo di non coglierne la contemporaneità, cioè l'importanza del qui ed ora, perché io penso che la questione del reddito oggi, rispetto a 10 anni fa, rispetto a 20 anni fa e rispetto anche agli albori della differenziazione del dibattito politico-culturale nella sinistra, abbia un'altra valenza e un'altra potenza e un'altra efficacia. E quindi credo che dobbiamo giocarla con molta attenzione, con grande capacità di apertura rispetto all'affermazione del tema. Qui ed ora significa questa crisi, senza farla lunga, qui ed ora significa questa crisi al tempo della guerra e della rincorsa, la redistribuzione delle risorse dentro processi che noi oggi facciamo anche fatica a rimettere in fila e che ci consegnano una velocizzazione della storia e del riassetto geopolitico del pianeta, dell'Europa, dell'Europa rispetto al Maghreb, eccetera. Quindi qui ed ora significa la debolezza, purtroppo, dell'Europa, che riguarda la politica in generale e riguarda anche questi temi, però. Ecco, io penso che il primo tema è quello appunto dell'Europa, persino di un'accelerazione sul piano non della governance, che già sarebbe una cosa democratica e concertativa, ma del government, cioè dell'idea anche di un posizionamento politico più chiaro dell'Europa, persino verticale, ma che in ogni caso rimetta al centro la politica e non solo la scelta dei tecnocrati, della banca e degli assetti che non hanno a che fare con i processi democratici e del consenso, con tutti i limiti che noi conosciamo della democrazia, del consenso e della democrazia rappresentativa in questi tempi. Però questo è il primo tema, perché se noi riusciamo a ridefinire un ruolo per l'Europa, riusciamo a ridefinire anche un'idea di welfare europeo che abbia caratteristiche europee e che ci permetta anche a noi di fare quel salto, cioè che abbiamo quel gap di 20 anni che ci abbiamo alle spalle. Se non riusciamo a fare questo, anche per noi è più complicato, perché il nostro dibattito è un dibattito molto specifico, molto provinciale come paese, e che quindi ha perso delle puntate straordinarie anche di sviluppo del welfare nel resto dei paesi europei. Quindi io credo che il tema del reddito è fortemente connesso con le politiche di welfare, che le politiche di welfare non possono essere pensate, poi ci torno, vado veloce, però Per esempio io penso che sulla legge del Lazio, che comunque è una legge, c'è, l'abbiamo fatta, siamo stati bravi, l'abbiamo fatta in 5 anni, non siamo stati bravi, nel senso che se ci avessimo messo meno tempo avremmo avuto più tempo per aggiustare il tiro, eccetera. Quella discussione è stata fortemente condizionata in consiglio su un'idea che riporta costantemente il dibattito sul reddito dentro una dimensione legata alle politiche di welfare più basse, cioè le politiche sociali più vicine a un intervento caritatevole, qui sì, e quindi sul ruolo dei comuni, dei servizi sociali dei comuni. Io penso che qui per esempio c'è un nodo, non credo che sia quello l'ambito per esempio, perché ci consegna a una condizione di nicchia o molto bassa dello strumento, e che quindi invece andrebbe inventato, perché qui non c'è, o c'è le politiche sociali dei comuni o ci sono le politiche attive del lavoro delle province, che possiamo pure abolire, poi dobbiamo decidere chi fa le politiche attive del lavoro, perché l'importante non è dire no, cioè il problema è che dentro a volte c'è anche qualcosa, in questo caso ci sono le politiche attive del lavoro. Io penso che non è né l'una né l'altra, e che quindi ci richiama a ragionare anche sull'esperienza che abbiamo fatto. Credo che vada costruita questa ipotesi intorno al diritto di esistenza, come ben spiegato da tanta letteratura su questo tema, e che questo tema è non lontano, sta rispetto alle elaborazioni del ministro Sacconi, sta su Marte. Cioè noi questo ce lo dobbiamo dire, perché quali sono le azioni messe in campo dal ministro Sacconi rispetto alla crisi, eccetera? Nessuna. Anzi una, cioè l'estensione dovuta delle politiche, anzi degli ammortizzatori sociali, quindi politiche passive, allargando, dando una risposta di sussistenza ai lavoratori, una parte dei lavoratori che perdono il lavoro, svuotando le casse delle regioni per le politiche attive, cioè per la formazione. Quindi ancora una volta, anche qui con un contributo geniale anche delle regioni di centrosinistra, in quel caso del presidente della conferenza è stato Regioni, che era l'assessore Costa della regione Lazio centrosinistra, cioè dando l'ok, l'avvallo a questa operazione, che è un'operazione suicida, perché ancora una volta sposta tutto sui garantiti a danno dei non garantiti, ancora una volta sposta tutto sulle politiche passive rispetto alle politiche attive, e quindi pure noi abbiamo commesso degli errori notevoli. Penso che i ragionamenti, soprattutto insomma nell'ultimo periodo, sulla precarietà di seconda generazione, che vengono riportati in questo testo, secondo me sono molto interessanti, perché ci consegnano, no, un dibattito stantio pure sulla precarietà, anche questa al singolare, non al plurale, anche questa sempre uguale a se stessa, invece non è così, e c'è una evoluzione, involuzione di questo status, che va incontro a un dato oggettivo che oggi nessuno può negare, per questo dico a volte rifare, diciamo, dagli albori la discussione rischia di non aiutarci. Oggi nessuno può parlare di piena occupazione, cioè, perché è francamente difficile, è difficile da mettere in piedi un ragionamento di questo tipo, in questo momento, in questo paese, in questo continente. E quindi diciamo che le condizioni appunto della crisi, che sono drammatiche, possono essere anche un'opportunità in qualche modo di ripensare. Ora, e qui c'è, diciamo, la cosa in più che mi sento di dire rispetto a quello che ho sentito sinora, cioè il reddito è una politica, un'azione aggiuntiva, specifica, o è il paradigma intorno al quale riorganizzare il welfare? Perché non è la stessa cosa, anche rispetto alla domanda del chi paga. Perché dovremmo domandarci chi paga cosa. Poi ci sono gli studi di settore, eccetera, ma credo che una unificazione, un ripensamento di tutte le misure che già oggi esistono e che sono sparse, frammentate, disorganizzate, a volte si sovrappongono, a volte lasciano interi settori senza nulla, già lì si potrebbero fare dei ragionamenti. Ma in ogni caso io penso che noi abbiamo la necessità, non dico di intendere il reddito come una toppa su un buco gigantesco, che è il nostro sistema di welfare, ma come un'occasione pratica, concreta, sulla quale riorganizzarlo. Questo è il punto, secondo me, e da qui anche i ragionamenti sulle compatibilità economiche, che diciamo le persone serie devono sempre mettere in campo. Forse diciamo riesce anche più semplice, no? Perché non è quello più quell'altro. La famiglia più, cioè, no, è un'altra idea di società e quindi di welfare. Perché non si è riuscito a fare questa discussione? Io penso perché c'è stato molto conservatorismo, perché senza polemica, ma la discussione ancora da Togliatti a Veltroni fino a ieri è stata l'unità e il patto dei produttori. Questo è. Quindi grande sindacato e grande industria. Con queste le ultime considerazioni, diciamo, di carattere generale, strategiche, che ci ha consegnato Veltroni prima di dimettersi da segretario del Partito Democratico, che sono uguali a quelle che faceva Togliatti. Ora, senza discutere di Togliatti, perché è molto tempo fa, e senza discutere, diciamo, della poca creatività di questo, diciamo, impianto, ma è un impianto che non ha nulla a che vedere con l'organizzazione materiale del sistema produttivo italiano. Questo è il punto, l'altro punto fondamentale, che noi abbiamo avuto in testa la grande utopia, abbiamo, insomma, diciamo, come paese, come sinistra, produttivista, sviluppista, fondata su una cosa che non esiste o che è esistita parzialmente in alcuni ambiti, in alcune aree, in alcune epoche, e che non esiste più, e che il prevalente, non in questa provincia, ma in Italia, è quello dell'impresa molecolare, fatta da una persona, una e mezza, due persone, tre persone, dentro un meccanismo di sfruttamento e autosfruttamento piuttosto evidente. Allora, anche qui non c'è solo il problema di chi sta fuori, cioè di come si riorganizza il welfare intorno al reddito, ma come noi ripensiamo il sistema complessivo rispetto all'effettivo, alla fotografia del sistema produttivo di questo paese, che non è quello su cui noi abbiamo costruito quel poco welfare che c'è stato. Molto lavorista, un po' paternalista, un po' familista. Ma diciamo, al di là delle considerazioni, diciamo, culturali, che ci possono più o meno convincere, oggi quella roba lì non ha a che fare nulla con le condizioni materiali di quello che resta dell'apparato produttivo di questo paese, che è in via di forte depotenziamento, di grandissima despecializzazione, di difficoltà nel rapportarsi coi mercati globali, per assenza, come dire, di un sistema anche qui pubblico. Io sono d'accordo, pubblico non è uguale a Stato, quindi pubblico legato anche al sistema del welfare e delle autonomie locali, perché io penso che noi abbiamo una straordinaria tradizione, esperienza di autonomie locali, che vengono da prima dello Stato e che forse andranno oltre lo Stato, e che quindi l'idea del welfare dovrebbe mettere insieme la dimensione europea come dimensione generale in cui riorganizzare alcuni livelli essenziali minimi dei servizi, delle prestazioni, eccetera, e la dimensione del pubblico locale, cioè del comune. Ecco, io penso che intorno a queste idee noi possiamo rimettere al centro questa discussione. Ultime due considerazioni, secondo me ha un aspetto pragmatico anche molto efficace, e cioè veniva detto la tutela contro il massimo sfruttamento, perché noi non è che possiamo fare questa discussione, diciamo, in astratto. Oggi quella misura sul reddito, la legge della Regione Lazio ha fatto emergere una domanda inespressa di 130.000 persone che viceversa non avevano più alcuna relazione col pubblico, perché disilluse, allontanate e quindi sommerse in qualche modo. La legge finanziata non adeguatamente, comunque copriva il 10%, quindi comunque dava una risposta a 13.000 persone. Oggi quella legge c'è, è stata definanziata neanche dentro un dibattito, è stata definanziata punto, non è che c'è altro da discutere purtroppo con l'attuale governo della Regione Lazio. E l'ultima cosa, io qui pure lascio una domanda, cioè che è grande, quindi non è retorica in qualche modo, è evidente che il dibattito politico, ma anche la cronaca di questo paese degli ultimi mesi, la domanda appunto di cosa è il lavoro e quanto vale il lavoro non è una domanda appunto esclusivamente teorica, è una domanda che si deve per forza di cose riunificare con la ricostruzione di un sistema di welfare adeguato, altrimenti certamente non ce la fanno i non garantiti, ma come è noto anche quella nicchia di lavoro garantito che permane, sempre minore, cioè che andrà a diminuire, non godrà di buona salute. L'abbiamo visto sul caso Fiat in maniera eclatante, ma noi lo vediamo tutti i giorni nelle piccole e medie imprese che in questa provincia chiudono senza dare in cambio nulla se non alcuni mesi di sopravvivenza ai lavoratori che rimangono per strada. Grazie all'assessore Smeriglio. Volevo ricordare per i volenterosi, diciamo, che sono rimasti e che intendono rimanere, che alla fine ci sarà un piccolo buffet con del prosecco, quindi questo per, diciamo, incentivare la... Esatto. No, credo che, diciamo, l'intervento che mi ha preceduto sia, diciamo, indicativo di tutto il lavoro che dovremmo costruire collettivamente, perché se noi attraverso, diciamo, la parola d'ordine, l'idea di reddito, pensiamo di costruire un modello non alternativo, però un modello più razionale, più completo, più inclusivo di welfare, si impone, diciamo, una discussione anche molto pragmatica, perché noi abbiamo mille rivoli, diciamo, della provvidenza pubblica. Dobbiamo distinguere tra misure che sono contributive, quindi in sostanza già finanziate, misure che non lo sono, quindi dovrebbero essere a carico della fiscalità generale, misure che sono a carico di enti diversi, centrali o periferici. Inoltre c'è il tema che è stato correttamente affrontato e che necessariamente è già emerso nel corso della sperimentazione della legge razziale sul reddito, ne abbiamo discusso proprio con la provincia di Roma in varie occasioni, cioè di che cosa siano le politiche attive del lavoro e a chi si debbano risolvere e rivolgere, perché uno dei problemi, diciamo, della legge in generale, diciamo, del sostegno ai soggetti a rischio di esclusione sociale, che vengono presi, c'è scritto anche nella relazione Revelli, in genere a carico degli uffici del collocamento, degli uffici, diciamo, che somministrano e che gestiscono il lavoro, mentre in realtà sono situazioni di tale radicale disagio esistenziale che dovrebbero essere presi in carico dai servizi sociali, per cui si fanno, diciamo, stipulare dei falsi percorsi, falsi, insomma, dei percorsi che comunque sono, diciamo, slegati poi da un'effettiva realtà esistenziale. Quindi questo è un immane lavoro di delibazione e di confronto collettivo, perché se vogliamo che il reddito non sia solo, diciamo, appunto, come diceva bene Smeriglio, mettere una pezza su un problema di disagio, ma sia l'occasione impellente, ma sia l'occasione per costruire un welfare più avanzato, più inclusivo e più razionale, non necessariamente con un aggravio di costi, certo un tot costerà di più, ma anche razionalizzando le spese che sono a disposizione. Adesso do la parola al senatore di Giovan Paolo. Volevo ricordare che in questi ultimi giorni è comparso su internet un interessante documento del PD che costituisce una proposta per un piano interno di riforma. I piani interni di riforma sono quei piani che gli stati devono ogni anno presentare nel quadro dell'Open Method of Coordination, cioè mostrando come si adeguano a indicazioni sovranazionali ed europee. Normalmente questi piani di riforma sono considerati delle chiacchiere insignificanti, naturalmente non in Italia, cioè in Italia, non altrove. Quest'anno una forza politica ha presentato delle sue proposte, di cui forse ci parlerà il senatore, in cui c'è una, lo dirà anche lui, un'apertura al reddito minimo. Una minima apertura. Ho costruito una volata. Grazie. No, ma in realtà no, ti ringrazio, perché in realtà io non sono un esperto dei temi economici, e peraltro devo anche dire, ma forse questo può essere pure utile in questo cammino unitivo tra diversi, non vengo nemmeno da una storia che vada dagli atti a Veltroni, per intenderci, quindi forse per questo mi permette delle volte delle libertà nella proposizione di alcune riflessioni e anche dei favori della storia. Per esempio, io penso, vedo la grande fatica che fanno i miei colleghi, lo dico qui un po' in famiglia perché ci sono amici europeisti, altre persone a cui ci conosciamo un po' di tempo, la fatica nell'esprimere alcune cose che si vogliono fare sotto il termine di idee progressiste, no? Perché c'è io non c'ero in quel prodotto lì, quindi per me va bene invece dire cose che fanno progredire la società, non c'ho nessun problema a dire che debbano essere delle proposte che uniscano coloro che sono progressisti o che pensano che la società possa progredire. Fatta questa brevissima premessa, e per essere brevi e arrivare sani al prosecco, io faccio tre notazioni, perché sono venuto soprattutto con l'idea di mettermi a disposizione per quello che è possibile, sapendo di stare in una forza politica che è ancora abbastanza in costruzione. E anche che vive dei momenti quotidiani di difficoltà dovuti anche al fatto che è abbastanza facile sparare sulla Croce Rossa, quando non c'è Berlusconi in mezzo il PD è sempre disponibile su questo, su questo e su altri temi normalmente. E io penso che sia un fatto positivo che sia stato introdotta questa riflessione, ma devo anche dire che personalmente nel mio programma che avevo fatto candidandomi alle elezioni per la prima volta, quindi nel Partito Democratico, io l'avevo messo, pur non frequentandoci il discorso sul reddito minimo garantito, perché fa parte della cultura di una riforma del welfare in un passaggio di una welfare community che fa parte della mia cultura politica. E dico questo perché quella fortuna di non avere c'ho altri pregiudizi, ma non avere il problema di pormi il problema solamente del lavoro salariato, ma di pormi il problema dei lavori che esistono nella società, ovviamente mi permette maggiormente di avere un approccio più libero rispetto a questo. Io sento molto il dato della cittadinanza legato a questa proposta, forse lo sento più che rispetto al dato del lavoro, che pure anche nelle forme in cui veniva espresso prima, di attenzione alla società, va posto. Partire dalla cittadinanza mi permette di fare con questo strumento una fotografia della società nella quale non sento che c'è una frantumazione di un'unitarietà del lavoro, ma come dire fotografo una realtà nella quale tutto questo è già squadernato davanti a noi. La miriade di atipicità dei contratti, le molte flessibilità, i modi in cui prima si è detto giustamente uno va a lavorare in, diciamo la mia pronuncia, io sono molto locale, diciamo nel napoletano va a faticare, è evidente che tiene conto anche di un ragionamento sui mille modi in cui ci si arrangia rispetto a una situazione generale. Allora, se uno toglie questo pregiudizio, che è il problema principale, io lo vedo nei rapporti con i colleghi, alcune volte lo dico in senso come dire oggettivo, pregiudizio, per trattino giudizio, rispetto al fatto che questo è un fatto minore rispetto alla difesa di quello che è la questione del lavoro così come la conosciamo, e io credo che bisogna farlo se ci riusciamo insieme anche per, come dire, permettere di aprire una riflessione nuova, che però è pure antica, cioè questo sistema come è organizzato di produzione, di capitalismo consumista, no? Vorrei dire cose, diciamo, ma di capitalismo consumista, che è una degenerazione anche del capitalismo classico, voglio dire, per intenderci, è un sistema su cui, diciamo, una forza politica deve esercitarsi solamente per limare le unghie, oppure una coalizione, una forza, si può porre anche il problema che il sistema potrebbe essere cambiato in questo caso, quindi a partire dalla cittadinanza che ridistribuisce anche i modi in cui si lavora all'interno di questa cittadinanza? Io me lo pongo in questi termini, che penso sia il modo in cui in altre forme, diciamo, se lo pongono anche altri, ma a me, come dire, non interessa solo il cambiamento, per usare una terminologia che, come dicevo prima, forse non mi appartiene, ma che conosco nei punti alti del capitalismo, per intenderci. Mi interessa sapere se questo tipo di società è giusta, adeguatamente giusta, ha delle condizioni per cui possa essere possibile vivere una cittadinanza che non sia semplicemente poter ricevere la carta d'identità e avere, diciamo, certe sicurezze se sei cittadino a pieno titolo. Perché se per esempio sei nomade, nato in Italia e vissuto in Italia 33 anni, ma sei costretto a iscriverti sul passaporto di tuo padre montenegrino, tutto questo non lo riguarda manco in termini formali, per intenderci, no? Per dirne solo una dei problemi che peraltro la provincia ogni tanto almeno affronta rispetto ad altre istituzioni. Quindi io l'approccio che ho è questo, cioè è molto importante per me l'attenzione al tema della cittadinanza per fotografare la realtà del lavoro e pormi, diciamo, quel problema che poi è legato al nostro articolo 1 della Costituzione, che non è semplicemente un riferimento al lavoro in quanto diciamo presenza di possibilità di lavoro, no? Se no sarebbe dentro tutto quel dibattito storico su appunto l'assicurazione o meno del diritto al lavoro, ma è dentro al fatto di avere dei cittadini e di avere una Costituzione oltretutto che è progressiva, pur se da difendere rispetto a quello che ci viene proposto fuori. Allora, io penso che alcune delle domande, diciamo, almeno che interrogano me, quindi rispondo per me per ora, ma con la disponibilità a riproporle queste domande, a replicarle e a portarle dove io opero, insomma. Lo spostamento della centralità dal salario al reddito intanto sta dentro questo ragionamento sulla questione della cittadinanza. Su questo io propongo solo una riflessione che secondo me va costruita, diciamo, io non eccederei nel dire semplicemente, pur accettando l'impostazione del diritto individuale, non metterei da parte l'idea, se non nella forma in cui l'ha fatto giustamente Smeriglio, cioè dicendo che non possiamo legarlo a una forma residuale che diventa assistenza e carità, e peraltro la carità non è politica, perché non permette alle persone di diventare cittadini, ma di rimanere sempre debitori. La politica invece permette, dovrebbe permettere, diciamo, di portarsi sullo stesso piano. Però io credo che il fatto che esistano delle formazioni sociali nella società che si auto-organizzano e che lo Stato, come dire, rappresenta, non organizza, debba essere legato anche alla possibilità del diritto individuale. Cioè dobbiamo, perché molto spesso quando manca, in tutti i casi, molto spesso quando manca lo Stato, sono queste formazioni sociali che non vanno mitizzate, la famiglia come l'associazione, come come l'associazione dai lavoratori autonomi di seconda generazione, come la mutua società, la cooperativa, che peraltro è costituzionalmente, diciamo, dovrebbe avere anche un ruolo, diciamo, più forte, che è andato decadendo negli anni. Secondo me queste cose vanno collegate insieme, cioè non dobbiamo contrapporle. Cioè, il diritto individuale che va costituito rispetto a questo come diritto sociale non chiude, diciamo, i rapporti con il resto, anzi andrebbero, come dire, rafforzati per certi versi. La questione dei denari, ovviamente non la risolvo io, però mi sembra che si debba dire questo, proprio perché ha un'origine europea questa battaglia e che in Europa è più avanzata che da noi, e non solo per la questione del voto del Parlamento. Penso il Parlamento, per la verità, giorni fa hanno approvato anche quella mini tassazione, che però è un bel inizio, diciamo, dello 0,05 sulle transazioni, che da noi ce lo sogniamo, insomma, no? Ancora il ragionamento di questo è ancora molto ideologico. Io penso che bisogna cogliere l'occasione del ragionamento che avviene sulla governance europea, avviene proprio questi giorni, dall'altro oggi domani c'è il Consiglio europeo, non che vada accettato tutto per filo e per segno, né che vada accettato perché viene dall'Europa, né che non si possa discutere un eccesso di rigorismo, no, da parte di alcuni dei paesi, diciamo, all'interno dell'Europa, però vada colta l'occasione che viene chiesta ad ogni paese, che sarà costretto non solo a presentare entro il 10 aprile i piani. In questo senso il Partito Democratico ha fatto una proposta alternativa a quella che fa il governo, dove dentro c'ha, per intenderci, ancora i fondi FAS, cioè quelli che sono stati saccheggiati per 28 miliardi per fare altre cose, insomma, no? Sono un po' come gli aerei di Mussolini, per intenderci. E vada colta questa occasione, perché la governance europea chiederà al nostro Paese comunque di ristrutturare il proprio debito e di ristrutturare la propria concezione, diciamo, del bilancio annuale. Allora, questo può diventare peggio o meglio, dipende pure da quello che ci mettiamo dentro, perché è lì dentro una ristrutturazione del genere che è possibile dire: ma scusate, ma se noi rispetto alle regole che ci stiamo dando in Europa ogni anno dovremo diminuire dello 20%, diciamo, il debito nazionale, che vuol dire di circa 35 e 40 miliardi annui, è possibile che sia immaginata una riflessione di costruzione di un bilancio dove queste cose diventano dei pilastri in una visione alternativa, oppure dobbiamo solo accettare, diciamo, l'idea che ha questa maggioranza, che è quella solamente di fare i tagli lineari, che da 10 diventano il 20%, il 30%, il 40%. Io penso che bisogna cogliere questa occasione per dire: ci sono delle cose che non possono più essere fatte nello stesso modo, ci sono delle scelte che vanno fatte. Avevi ragione tu prima, bisogna essere seri rispetto alle competenze. Ovviamente tutti quanti noi che ci impegniamo in un'istituzione non siamo nello stesso tempo, anche se manteniamo quell'idea, non facciamo i militanti, prima scherzando di base, diciamo, prima scherzando dicevo basterebbe, purtroppo è vero, ma capisco che non è solo quello, basterebbe non firmare più il contratto per i 135 o quanti sono, poco di più, diciamo F35, che sono 16 miliardi di euro in 5 anni, per porci il problema della copertura di 2 anni di quel reddito che si diceva prima. Sono cose che adesso non si dicono più e che ho difficoltà a dire anche diciamo nel centrosinistra spesso, perché vengono considerate delle cose come dire troppo moralistiche, diciamo, però io penso, o naif, però è un dato di fatto che c'è, ce ne sono altre di spese possibili. Io penso che sia possibile, se c'è la volontà politica, diciamo, di mettere al centro questo. Terza e ultima questione, e faccio una notazione solo finale, che riguarda la questione dei dati, che è stata accennata prima, sulla valutazione, che c'è anche nel testo, quello sulla Regione Lazio di Santini, mi pare, no? Cioè, riferimento alla valutazione di quello che è stato per l'RMI, per intenderci. Quello, se tentiamo, se è possibile, per dirlo concretamente, non è detto che, immagino che i dati ci siano, vadano solo messi, diciamo, in fila o vadano cercati. Su questo tentiamo, almeno per via parlamentare, se volete, con la piena disponibilità, coinvolgendo chi anche ne sa più di me, se volete, su questi temi, di cercare di avere dati e valutazione, di costringere cioè a fare una valutazione che di fatto sulle altre misure che sono state sperimentate esiste anche solo in termini giornalistici, invece se riuscissimo diciamo a renderle un atto formale io su questo sono disponibile. L'ultima notazione che faccio, ma è collegata alla prima, è una battaglia culturale, perché nonostante gli sforzi che sta facendo la provincia, ha fatto nell'ultima parte diciamo del governo regionale di centrosinistra a centrosinistra pur nelle difficoltà, io onestamente noto, lo dico come cittadino prima ancora che come parlamentare, che ci sono stati 7.000 e passa licenziamenti all'Alitalia solo nella zona di Roma, non ho visto diciamo masse sconvolte cioè in giro, e cioè voglio dire con questo, scusate la vado a spanne, la brutalità, cioè come una quasi come dire una sorta di, ce ne stanno tanti altri casi, no? Ovviamente c'è come una sorta di accettazione passiva di questa situazione, che in parte è determinata, se posso dirlo, da una certa ansia di legittimazione che a sinistra c'è rispetto ai centri diciamo di potere economico. È come dire, è l'economia bellezza e tu non puoi farci niente, è l'economia sinistra e tu non puoi farci niente. È un pochino, io insomma francamente appunto non venendo da quella storia, non avendo ansia di legittimazione, dico ma perché non ci possiamo fare niente? Dove sta scritto che debba essere per forza così diciamo la situazione, che non si debba chiedere conto quando sarà il nostro turno, c'è una democrazia, quando vinciamo, è evidente, non pretendo, però le vittorie vanno pure costruite, vanno costruite non solo dicendo quello che si fa al governo, nella mia opinione, se si va al governo, ma dicendo che società vuoi costruire, perché forse quella società c'ha piacere che vai al governo, se c'hai un'idea di società, se invece c'è solo l'idea di come dovresti fare se vai al governo, un tecnico fa ugualmente bene. Allora questa è una mia opinione e quindi la notazione qual è? Che questo ragionamento sul basic income è un ragionamento che sta dentro la logica della triade della rivoluzione francese, scusatemi se mi permetto questa cosa qua, e c'è un principio negletto della rivoluzione francese, perché noi ci siamo oggi assoggettati al ragionamento, quelli sono quelli della libertà, il popolo della libertà, e noi siamo quelli dell'uguaglianza e la fraternità? La fraternità non è il welfare, non è solamente il welfare, la fraternità è la cittadinanza piena, è la politica che non è più carità, è la possibilità che dopo che io ho fatto un'azione politica nei tuoi confronti tu sei pari a me e mi puoi criticare pure, e non che stai sempre con la mano tesa e quindi io sono sempre il benefattore. Ovviamente il welfare è un passaggio storico negli anni che è stato importante per questo, ma secondo me questa è una delle regole su cui noi potremmo costruire un ragionamento che è sempre stato difficile sul tema della fraternità, perché è un po' venato da questioni diciamo spiritualiste o religiose, e come avete capito lo dico da cattolico democratico, invece lo metto proprio da parte sto ragionamento qua, perché a me mi interessa come virtù civica, e un pochino perché su questi temi c'era sempre il rischio appunto di finire vicini al discorso dell'associazionismo, della carità e così via, e invece è un tema di piena cittadinanza, la fraternità mette tutti sullo stesso piano, e questo secondo me è una di quelle scelte politiche su questo tema di basic income che pone una questione nuova su questo termine negletto rivoluzionario. Grazie, prendiamo molto sul serio queste offerte di collaborazione, quindi aspetta di richieste diciamo da parte nostra, e adesso do l'intervento a Brunetti per la parola per l'ultimo intervento che sarà molto breve. Visto che si è scomodato la rivoluzione francese, volevo ricordare giustamente che la prima iscrizione costituzionale di una forma di reddito minimo garantito è l'articolo 23 della Costituzione giacobina del 1793, che quindi diciamo in qualche modo tradizione illustre che poi è proseguita attraverso altri testi. E per quanto riguarda l'Alitalia c'è un problema, che è chiaro che il reddito minimo garantito non vuol dire costituire il socialismo in una classe sola, però dobbiamo dire che la garanzia di 7 anni di ammortizzatori sociali nei confronti dei dipendenti dell'Italia e letteralmente niente per, non so, un contratto a progetto atipico, un contratto a termine che non viene rinnovato è una sproporzione gigantesca. Quindi è chiaro, perché questi ammortizzatori, diciamo, chilometrici, poi io ho letto, però ho ricordi confusi, che costano tipo 2-3 miliardi, quindi siamo come al solito su entità che sono, diciamo, abbastanza vicine a quelle che andiamo cercando, insomma, ecco. Allora, Alessandro, molto breve, dai. Diciamo, io il diritto al prosecco. Io, diciamo, vorrei partire dal tentare di seguire l'insegnamento del pensiero femminista, quindi partire da me con tutte le approssimazioni della mia appartenenza di genere. Chi vi parla da parecchio tempo è assolutamente convinto della necessità di introdurre un reddito minimo garantito al di là del lavoro, secondo la citatissima opera del giuslavorista francese Alain Supiot. Ma, diciamo, 10 anni fa le ragioni afferenti l'opportunità di introdurre il reddito garantito le individuavo essenzialmente appunto al di là del lavoro. Questo in qualche modo provocava in me una frattura, in quanto avvocato lavorista, impegnato integralmente nel mondo del lavoro salariato, incontravo persone che avevano quale unico orizzonte di senso e anche unico campo di battaglia quello del lavoro salariato. Oggi invece le ragioni dell'opportunità di introdurre il reddito di cittadinanza le vedo anche al di qua del lavoro. Per rispondere, diciamo, alla domanda di Mattone, reddito salario, io, diciamo, richiamerei la risposta che diede Marx, Grucio, in una nota gag in cui gli si chiedeva tè o caffè, e lui rispose sì, grazie. Non diciamo, addentrerei oltre. Tra noi acquisita l'elaborazione intorno al mutamento degli assetti produttivi in atto. Fumagalli, anche nel volume che oggi viene presentato, ha ben sistematizzato le teorie che evidenziano come i processi produttivi in atto traggono valore anche al di fuori del perimetro della contrattualità, quindi nella pura vita, nel quotidiano, e le trovo tutte molto condivisibili, le ho sempre trovate molto condivisibili. Ho trovato un mio scritto dei primi anni 90, quando a Roma fondammo la Camera del Lavoro e del Non Lavoro. Era il tempo della cittadella dei garantiti, degli insiders e degli outsiders, seguendo, diciamo, le provocazioni del professor Ichino, e l'elemento socialmente scardinante allora ci sembrava essere i rapporti contrattuali di lavoro non standard, essenzialmente. E del mutamento produttivo in atto, mi cito in modo poco elegante, scrivevo: la conseguenza è uno stravolgimento della giornata lavorativa che coincide con l'intera giornata sociale, ma che viene retribuita eventualmente solo per le ore che vengono ufficialmente definite di lavoro. Questa forse è la cifra maggiore del precariato post-fordista, ovverosia non l'alternanza tra lavoro e non lavoro, ma la facoltà per il datore di frammentare le figure lavorative e scegliere di retribuire solo una parte delle ore di lavoro sociale che utilizza nel proprio giro di impresa. 10 anni che sono trascorsi da allora, a mio avviso, hanno distrutto, hanno sia confermato che negato questa suddivisione, distruggendo la distinzione in sé. Quello che sino alla fine del secolo scorso caratterizzava il lavoro precario, oggi è una condizione che accomuna il lavoro tout court, realizzando, livellando al suo punto più basso la pura vita, quel lavoro sans phrase che noi vagheggiavamo, di cui, diciamo, poi la progressiva disaffezione generalizzata verso il lavoro, che il mio amico Peppe Allegri ha definito bene. Spesso il lavoro è ormai sentito come insopportabile, ambigua condizione di sfruttamento, sia nella sua presenza che nella sua assenza. Ciò ovviamente anche perché il sistema di welfare è alle corde, c'è disarmonicità, temporaneità, è costruito su un assetto contrattuale e sociale assolutamente antistorico, ma di qua, insomma, abbiamo già approfondito adeguatamente. Quindi, tornando alla questione centrale, vediamo come sia la stessa vita essere integralmente al lavoro. Quindi, ripeto, non soltanto fuori dai confini del rapporto di lavoro formalizzato, contrattualizzato, ma anche dentro tali confini contrattuali. A me, quindi, interessa adesso cercare di evidenziare cosa sta accadendo dentro questi confini del lavoro formalizzato e come questi mutamenti attraversano in termini assolutamente unificanti coloro che un tempo venivano identificati appunto come i garantiti e i precari. Diciamo, dentro il perimetro del sialama contrattuale si assiste a una inarrestabile crescita del potere dispositivo sui corpi, in apparente contraddizione quindi con le magnificate sorti progressive della flessibilità. Si realizza che quando essa non viene agita da chi lavora, è svincolata da ogni possibile attivazione di chi lavora, appunto si tramuta in un controllo totale che passa attraverso il controllo del tempo. Il controllo del tempo, quindi senza vincoli o garanzie, si traduce in un controllo totale della vita formalmente messa al lavoro. Io vorrei analizzare i casi più up to date che sono stati in qualche modo sfiorati oggi nel dibattito, in particolare partendo dalla Fiat. Diciamo, i commentatori mainstream ci hanno spiegato che l'accordo di Mirafiori aveva un obiettivo essenzialmente produttivista. Si diceva, nel punto più estremo di questa narrazione, che la creazione di 18 turni settimanali, con turnazione su 6 giorni alla settimana scalare, su base settimanale, con il giorno di riposo settimanale al secondo cambio turno, era fondamentale per aumentare i livelli di produttività. Però, diciamo, altri hanno notato che questa turnazione oraria era già stata adottata a un altro stabilimento della Fiat, quello di Melfi, e non c'era bisogno quindi di uscire dal contratto collettivo metalmeccanici. E sempre a Melfi ha completamente fallito, ed è presumibile che fallisca anche a Mirafiori, visto che nessuno si aspetta un picco della domanda tale da mandare a saturazione la produttività dell'impianto. Quindi, in realtà, non è questo il punto centrale dell'accordo. E anche, non pare neanche essere nel solco, diciamo, della produttività cinese l'altra previsione che dice, come dire, rende possibile estendere il lavoro a 10 ore di lavoro giornaliero. Perché poi, come dire, senza giocare a Fassino, se io fossi un operaio, cioè solo chi lavora alla catena sa se può o può lavorare 10 ore al giorno. Però è anche vero che l'orario complessivo rimane sempre di 40 ore settimanali e il sacrificio dell'allungamento comporta il beneficio di 3 giorni di riposo settimanale, di cui 2 necessariamente consecutivi e 1 prevalentemente la domenica. Per quanto riguarda poi la soppressione di 10 minuti di pausa al giorno, io non ho i dati per sapere se il sistema ergonomico veramente renderà meno penoso il lavoro. Però io so che in qualche modo i 10 minuti che vengono rubati a chi ha sta la catena, ebbene, il sapere operaio è in grado di riprenderseli nella quotidianità, si sa come si può fare. Dice, allora, qual è il punto centrale di questo accordo? Il punto non è la maggiore attività prevista nella, come dire, ordinaria produttività dello stabilimento, ma è l'acquisto potenziale dell'intera vita. Quindi esso non disciplina la normale attività dello stabilimento, ma la straordinaria possibilità di esercitare un potere unilaterale in caso di picchi. L'aspetto davvero eccezionale, questo cinese, molto più che cinesi, è il combinato disposto tra questi possibili turni e l'avvenuta estensione dello straordinario a 200 ore annue, di cui 120 comandabili unilateralmente. Se quindi si pensa che tale orario straordinario viene splitato a turni interi, ciò significa che può accadere solo nel giorno di riposo e quindi con la possibile prospettiva di prevedere ben 15 settimane annue, quasi 4 mesi, in cui l'azienda potrebbe obbligatoriamente far lavorare gli operai continuativamente. Quindi, cioè, non accadrà, però il fatto che in Italia nel 2011 sia possibile prevedere che un operaio alla catena può lavorare per 6 mesi continuamente senza il giorno di riposo, dà la reale dimensione della posta in gioco. Lo smisurato potere sui corpi dei lavoratori che Marchionne ha preteso e i sindacati hanno concesso. Quindi, perché parlo della Fiat? Perché, diciamo, l'esposizione mediatica che ha cercato Marchionne l'ha reso una sorta di manifesto ideologico avente una portata generale. Da là è partito un percorso di più ampio corso, c'è stato l'ipotesi di accordo nel commercio ultimamente, che anche la Filcams non ha firmato. Il fatto che non l'ha firmata la Filcams vuol dire che proprio era una roba, perché ha firmato di tutto. In cui viene anche lì aumentato lo straordinario, vengono ricattati i lavoratori che vanno in malattia, e quindi c'è questa potere di disposizione assoluto che prosegue. Allora, diciamo, questo accomunamento verso il basso del lavoro e del non lavoro, del lavoro informale e di quello formale, di quello precario e di quello stabile, ci costringe a cercare un elemento mancante, potenzialmente universalizzabile. Da dove lo troviamo? Secondo me è utile vedere quali sono i punti di attacco che vengono attualmente in luce. Se quello direttamente padronale sta nella contrattazione sui tempi di vita e di lavoro, quello istituzionale è nell'attacco all'articolo 41 della Costituzione, essenzialmente. Diciamo, questi riferimenti ci dicono che in quest'epoca di frantumazione il problema non è tanto quello della ricomposizione del soggetto collettivo, quanto le cui operazioni sono, quando non è adeguate, spesso errate, quanto quello primario del soggetto individuale in una sua dimensione comune. E la strada che abbiamo di fronte in qualche modo ci obbliga a ripartire proprio dalla valorizzazione dei criteri di tutela della persona, che sono individuati d'altronde nella nostra carta costituzionale oggi sotto attacco e sono in piena armonia con le disposizioni previste dai trattati comunitari. La costruzione di un nuovo diritto della persona che lavora e di un nuovo welfare devono quindi procedere insieme ridisegnando la sussistenza di un diritto all'esistere conforme alla dignità dell'uomo contemporaneo. Occorre quindi ripartire dalle fonti del diritto sociale per cercare di fare questa operazione. Come evidenziato da costituzionalisti, da Rodotà, il fondamento dei diritti sociali, diciamo, è insito nella nostra Costituzione, nel principio di uguaglianza sostanziale di cui all'articolo 3 e nel principio dei diritti inviolabili della persona umana di cui all'articolo 2. In buona sostanza, quindi, ridefinendo il concetto di tutela della persona, si delinea una nuova rilevanza del concetto di dignità, intesa come sintesi da libertà ed uguaglianza. Quindi, come abbiamo superato la dialettica tra lavoro e non lavoro, allo stesso modo dobbiamo superare la dialettica tra uguaglianza formale e uguaglianza sostanziale. È il caso di mandare al macero questa opzione, perché è insopportabile, come dire, interpretare l'articolo 3 come una norma con due fronti, uno rivolto verso l'eredità del passato e l'altro verso la speranza nel futuro, l'uguaglianza sostanziale. È indispensabile una lettura unitaria e non è possibile nessuna uguaglianza formale senza interessarsi, senza, come dire, nell'indifferenza per la materialità della vita delle persone, per la loro dignità, per i loro legami sociali. È impossibile. E allora, prima il parlamentare, come si chiama? Scusa. Roberto, insomma, tu richiamavi la questione della triade valoriale della Rivoluzione francese. A 200 anni forse vale la pena veramente ripartire da lì, perché, diciamo, libertà, uguaglianza e fraternità, però oggi la fraternità, per essere difesa e realizzata, va arretrata e sostituita con un principio che la rende e la precede, la rende possibile, cioè quello di dignità. È un pezzo fondamentale per cercare di riattualizzare questi principi. Ci sono nella nostra carta costituzionale dei riferimenti ben precisi al principio di libertà, uguaglianza, che danno senso a un nuovo concetto di dignità. L'articolo 3, ricostruito quindi nel suo carattere unitario, diciamo, grazie al riferimento alla dignità, compare l'associazione tra libertà ed uguaglianza. Il 36, nell'esistenza libera e dignitosa del lavoratore e della sua famiglia, descrive la condizione umana e la lega alla creazione di una situazione di libertà e dignità, nel quanto non si esclude che l'iniziativa economica privata possa svolgersi in contrasto con la sicurezza, la libertà e la dignità umana. Di nuovo, quindi, questi principi appaiono inscindibili. Quindi, cerco di chiudere. Va bene, ok, insomma, io volevo provare a dire che sostanzialmente da questi passaggi e da una lettura dell'articolo 36 come una norma che dà senso e portata concreta a una nuova antropologia disponibile dall'articolo 1 e dal suo riferimento al lavoro, si apre paradossalmente la strada ad una liberazione al lavoro stesso come unico portale di accesso alla quella materialità che dà senso alla dignità, al concetto di dignità. Quindi, insomma, per la Costituzione il lavoro non è né un feticcio né un'astrazione, è la figura attraverso il quale si accede a quella figura che dà senso e pienezza al concetto di dignità. Bene, questo passaggio è assolutamente messo in crisi, totalmente messo in crisi dai mutamenti dei processi produttivi in atto, e quindi viene spezzato il legame tra lavoro e dignità, le persone sono ridotte a cose, ad oggetti compatibili con le esigenze della produzione, quindi dall'esistenza libera e dignitosa si tende a passare a una sorta di grado zero dell'esistenza. Insomma, veramente vado a concludere, cioè, io penso che la dignità non sia un concetto indeterminato, ma trova in qualche modo nella persona il luogo della sua determinazione. Questo per mettere chiunque in condizione di poter determinare liberamente il proprio progetto di vita. Quindi la dignità conduce essenzialmente al concetto di autodeterminazione declinato in questo modo, e che la Corte Costituzionale ha già qualificato come diritto fondamentale della persona. Quindi il punto di torsione fondamentale in cui cade questo tentativo di attualizzazione ed effettività è nell'autodeterminazione della persona. E quindi, considerando il legame tra dignità e rimozione degli ostacoli di fatto, tra la dignità e la libera costruzione della personalità, c'è un proprio e vero dovere pubblico di costruire un contesto all'interno del quale le decisioni della persona possono essere effettivamente libere. In questo modo l'intervento esterno non è una compressione, ma costituisce la condizione per la sua piena manifestazione. Finisco dicendo che la determinazione del sistema laborioso è il fulcro per una nuova declinazione del concetto di dignità connesso a quello di libertà ed uguaglianza. Quindi lo strumento di attuazione, la sintesi bella e possibile c'è ed è il reddito di cittadinanza, che è l'unico strumento possibile per garantire un empowerment e autonominazione dentro il lavoro, fuori dal lavoro e in ogni luogo.